E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La zanzara delle feste. Buonasera, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24 anche questa sera 18, 20 e 30 per stare insieme con i vostri interventi. Mentre voi ve ne state sulle piste da sci o nei luoghi di vacanza o nelle città dove siete rimasti durante queste festività, però pur sempre diciamo accompagnati da questo clima di festa un po' sospeso, è iniziata la campagna elettorale. I contendenti se le stanno dando di santa ragione. Iniziamo a sentire le dichiarazioni su in televisione, in radio, sui giornali, da tutte le parti. Noi naturalmente facciamo sentire quello che si può sentire. Monti contro la sinistra del PD. Credo che sia una buona cosa. Io ho constatato in questo anno di esperienza di governo, e lo dico con il massimo rispetto, che coloro che hanno impedito alle riforme, alle varie riforme, al mercato del lavoro, più concorrenza, eccetera, di andare più avanti come noi avremmo voluto, sono stati da una parte coloro che sono nel blocco più tradizionale della sinistra, che vuol dire la CGIL, la FIOM dal punto di vista sindacale, Vendola e il SEL, e l'onorevole Fassina dal punto di vista politico. E dall'altra parte molte posizioni dentro il PDL. Monti Fassina sta già diventando un genere a sé. Sentite la risposta, una delle tante di Fassina. Il presidente Monti sta insieme a Marchionne, Montezemolo, Passera, grandi imprese e grandi banche. Noi siamo insieme ai giovani precari, ai lavoratori, artigiani, commercianti, pensionati, e vogliamo restituire dignità alla persona che lavora. La lista Rotary, ha detto Stefano Fassina a proposito della lista civica che sosterrà Monti, ci sono solo gente di alto livello economicamente parlando. Così risponde Monti. Simpatica l'immagine dell'onorevole Fassina che dice che la lista Monti sembra il Rotary, così dimentica i più deboli. Io non la conosco ancora la lista Monti, si vede che lui ha già una buona immaginazione. Comunque volevo richiamare l'onorevole Fassina a avere una visione un pochino più... Io, a differenza di lui, sono una persona anziana, quindi ho fatto diverse cose nella vita, come già anche lui naturalmente, e quelle per cui sono un po' ricordato in Europa sono state tutte azioni contro i potenti. E Monti si riferiva naturalmente alla questione del contrasto, quando era commissario europeo, con la Microsoft americana, il gigante americano, una cosa che Monti aveva ricordato anche al suo esordio in Parlamento. Invece per Vendola, che oggi ha presentato i candidati alle sue liste, capilista alla mano, Monti non è niente affatto un innovatore, cosa che naturalmente ha già detto altre volte. Sentiamo come si è espresso oggi. Essere innovatore per lui significa trovarsi dalla parte di Sergio Marchionne, essere innovatore significa attaccare il più grande sindacato italiano, essere innovatore significa scoprire, diciamo così, nel cranio di Gabriele Albertini, appunto, l'ingrediente magico di una nuova strana innovazione. Monti ha fatto la stessa cosa che ha fatto Berlusconi. Quando, diciamo, doveva rendere esplicita la propria discesa o salita in politica, Berlusconi scelse di appoggiare Gianfranco Fini, candidato a sindaco di Roma, così come Monti sceglie di appoggiare Gabriele Albertini, appunto il volto di una cultura liberal conservatrice. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Questa sera Alessio Maurizio in studio, Stefano Catone, Nadia Zammiti in redazione, Paolo Corleoni in regia. Cominceremo più tardi a sentire i vostri interventi. Intanto sentiamo ancora qualche frammento audio, perché se Berlusconi accusa Monti di non essere credibile come candidato e chiede che si dimetta da senatore a vita o da presidente del Consiglio, Monti definisce bolla, così come degli slogan alcune delle promesse elettorali del PDL. Non si può catturare la buona fede del cittadino a base di slogan, chi è per la patrimoniale, chi non è per la patrimoniale, chi difende i valori etici, chi non li difende. Queste sono operazioni, vorrei dire, senza nessun riferimento politico, di bassa lega. E quello che conta è osservare che già oggi esistono in Italia elementi di tassazione patrimoniale. Come l'IMU introdotta dal governo Berlusconi con efficacia differita. Abbiamo avuto noi il privilegio di avere l'entrata in vigore di questa imposta, è una forma di imposizione patrimoniale. Da un punto di vista economico generale, l'onorevole Brunetta sta portando, con l'autorevolezza di un professore di una certa statura accademica, il PDL su posizioni direi piuttosto estreme e se posso permettermi di dire settarie, ma dentro il PDL c'è molta vicinanza agli ordini professionali. È così Monti che attacca anche Brunetta, devo dire anche con una discreta dose di perfidia, quando definisce un professore di alta statura accademica, non tanto per la questione della statura, che non credo fosse quello a cui si riferiva Monti. La sua perfidia è più sottile, perché insomma è noto che Brunetta come professore universitario non ha, diciamo, al suo attivo moltissime pubblicazioni scientifiche, è stato cooptato dalla politica all'inizio della sua carriera universitaria e quindi poi, diciamo, di scientifico ha fatto poco. Ecco perché Monti, secondo me, ha usato questa espressione. Brunetta ha reagito attaccando Monti dicendo: la cosa che mi ha toccato di più è stato il silenziare Fassina, inaccettabile. Fassina è un mio avversario, ha detto Brunetta, un economista, un esponente del PD. Un presidente del consiglio tecnico si permette in campagna elettorale di dire a un esponente del PD di rilievo che Bersani dovrebbe silenziarlo, è impazzito? Insomma, però non ha tutti i torti Brunetta, perché l'espressione usata da Monti su Fassina, silenziare a parte del PD, è un po' così, un po' pesantuccia, è un po' un'entrata a gamba tesa. Che vuol dire silenziare? Togliere la parola a. Adesso facciamo un passaggio in casa La Russa. Impegnati i due fratelli, uno nella campagna elettorale lombarda romano, l'altro naturalmente alle prese con il suo partito, ma il partito è lo stesso, Fratelli d'Italia, Centrodestra Nazionale, la famiglia in questi casi si vede, ma partiamo da Romano. Ieri sera l'abbiamo avuto ospite, gli abbiamo chiesto perché sono nati questi gruppi consiliari Regione Lombardia al termine ormai della legislatura, quando la legislatura è stata già finita, per evitare la raccolta firme per presentarsi alle prossime elezioni. La nascita di questo gruppo serve per evitare questo passaggio della raccolta firme o no? Raccoglierete le firme o no? No, non le raccoglieremo, ma non è stato questo quello che ci ha spinto, che poi questo sia un vantaggio, tra virgolette, chiamiamolo così. Beh, ripeto, noi abbiamo è una coincidenza. Non facendo più parte, non riconoscendoci più nel Popolo delle Libertà, nel gruppo del Popolo delle Libertà, e doveroso per i consiglieri che non si riconoscono più in questo gruppo staccarsi e costituire un nuovo gruppo. Ogni cittadino, sì, si sveglia al mattino e presenta la sua lista. Avremmo, come se non bastassero già le decine di liste che ci sono, avremmo migliaia. Ma questo vale per chi non deve presentare le firme, per voi, la prima volta noi le abbiamo raccolte per 30 anni, per cui ma ogni elezione fa storia, se la russa poi non le raccogli più. Uniti più che mai i due fratelli, questo era Romano sulla questione della raccolta firme in Lombardia. Tra poco sentiremo Ignazio, che oggi ha chiesto che cos'è che ha chiesto esattamente, che anche qui, che Monti si deve dimettere perché non è legittima la sua candidatura. E poi la russa, che lancia naturalmente il suo movimento Fratelli d'Italia Centrodestra Nazionale, dice che Monti divide soprattutto il centro-sinistra, non il centro-destra. Adesso sentiremo, però intanto a Romano la russa vogliamo dare questa precisazione, perché lui ha detto ci vogliono circa 1500 firme, non sono molte, quindi non è per questo che abbiamo creato il gruppo consiliare in regione. Invece noi abbiamo controllato dallo statuto della regione Lombardia. Bisogna presentare le firme in almeno 5 province, firme che vanno da un minimo di 750 a un massimo di 3.000 a seconda della grandezza delle province, facciamo una media di 2.000, 5 per 2 fa 10, però siccome la legislatura è stata interrotta in anticipo, allora ne bastano la metà, 5.000, che sono comunque di più dei 1.500 che diceva lui. Ignazio La Russa e la sua raccolta di firme per chiedere le dimissioni da senatore a vita di Mario Monti. Dice La Russa, sta andando bene questa iniziativa, dichiarazione di oggi. Sentiamo La Russa su Monti, che divide soprattutto, dice lui, il centro-sinistra. Monti sta spaccando il centro-destra? No, sta spaccando il centro-sinistra, forse. Centro-destra, chi è che è stato via con Monti? Frattini, che non si candida, Pisano, che non avrebbe candidato, Berlusconi. Non c'è questo pericolo. E Albertini. Eppure proprio la questione di Albertini è molto significativa per il centrodestra. La candidatura di Albertini appoggiata da Monti, che rompe non poco le uova nel paniere, insomma, nel centrodestra, l'alleanza con la Lega, è un bel casino, insomma, diciamolo. E infatti lo stesso La Russa dice, se dovessero prevalere gli egoismi, cioè si riferisce proprio a Albertini, dovremmo candidare una nostra candidata in regione. Se prevalesse l'egoismo delle forze politiche, tutte e nessuna esclusa, di candidare ognuno il proprio, significherebbe fare vincere la sinistra, e a quel punto saremmo costretti anche noi a candidare, a mettere in vista quello che secondo me è comunque il miglior candidato di tutti, che è Viviana Beccalossi. E poi c'è la trovata, vi ricordate nei giorni scorsi le dichiarazioni di Berlusconi, che anche oggi ha detto potrei fare non il premier, potrei fare il ministro degli esteri, il ministro dell'economia, qualunque cosa, io sono il leader della coalizione, l'ultima invenzione di Berlusconi che gli consente di sdoppiare la figura di capo della coalizione, ma anche candidato presidente, come è stato fino ad oggi, per mettere pace con la Lega, che non lo vuole come candidato presidente. Allora sempre Ignazio La Russa dice queste elezioni per noi saranno come delle primarie, andremo lì ognuno col suo candidato premier e poi saranno gli elettori a dire chi vince. Colloquio telefonico con lui e poi anche con Calderoli, cui abbiamo discusso di questa proposta di trasformare le elezioni in primarie all'interno del centrodestra, in modo che ciascun partito di centrodestra della coalizione nostra della Lega, del PDL, possa esprimere un candidato e poi siano gli elettori a scegliere, dandogli il maggior numero di voti e in caso di vittoria, chi è il candidato premier di tutti. E lui mi ha detto che ci riflette. (800) 24 00 24, il numero verde per intervenire anche questa sera in diretta sui temi dell'attualità, che è naturalmente tutta politica. Tra poco, adesso salutiamo Ivan Scalfarotto, vicepresidente del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera Maurizio e buonasera agli ascoltatori. Eccoci qua. Uno degli eventi sicuramente di oggi è stato questo incontro tra Renzi e Bersani. La domanda d'obbligo, cosa si sono detti? Naturalmente lo sanno solo loro, perché erano solo loro due, però insomma è interessante questo incontro dopo, il primo dopo le primarie. Ma io penso che, oltre che interessante, sia stato anche un ottimo segnale C'era stato un invito di Renzi a Bersani per un caffè in dicembre e poi adesso si sono visti a pranzo. Io penso che al di là di quello che si sono detti è importante che tutti abbiamo visto che stanno lavorando insieme, che il Partito Democratico è unito. Perché c'era un po' di preoccupazione, cominciava a essere passato un po' troppo tempo e questa assenza di Renzi è sollecitata anche da Gori che ha perso le primarie. Che Renzi abbia fatto quello che ci si aspetta da un leader in una democrazia matura, un po' come fece Hillary Clinton quando perse le primarie 5 anni fa, è tornato a fare il suo mestiere ed è a disposizione del partito, che peraltro è quello che Renzi ha sempre detto che avrebbe fatto, per cui non si capisce lo stupore, diciamo. Questo è vero. Avranno parlato anche probabilmente insomma, di candidature, poi sono cose che sono anche le segreterie, l'organizzazione a fissare, però insomma si sa che Renzi, essendo arrivato secondo, avendo preso il 40%, ha diritto comunque a portare una sua pattuglia in Parlamento anche nel listino che il partito ha deciso di affidare a Bersani, cioè quelle candidature sicure che non sono passate attraverso le primarie. Prima di parlare di nomi e di questo, lei le primarie non le ha fatte? No, io le primarie non le ho fatte. Come mai? Ma non le ho fatte perché io non ero parlamentare nella scorsa legislatura e nel mio lavoro di vicepresidente mi sono occupato di tante cose su tutto il paese. Queste sono state delle primarie eccellenti, una grandissima idea, ma naturalmente organizzate in tempo molto rapido, in pochi giorni, e hanno sicuramente, erano più consone a persone che hanno lavorato sui territori. Poiché io non ero parlamentare nella scorsa legislatura, mi sono detto che il peggio che mi poteva succedere era continuare a fare politica come ho sempre fatto in questi anni, e quindi ho deciso così. E invece se dovesse arrivare, cosa che sui giornali si scrive che arriverà, una richiesta di entrare nelle liste del PD per queste elezioni, in quota Renzi, lei accetterebbe? Io sono sempre a disposizione del Partito Democratico, lo sono stato per molti anni, lo sarei ancora, ma ne parleremo se sarà il caso. Finora nessuno mi ha detto niente di tutto questo, ma non è veramente un problema. Come ho detto, in questi 5 anni io ho fatto politica senza essere parlamentare, mi pare dignitosamente, e sono anche disponibile a continuare così. Senta, adesso mano a mano che passa il tempo e l'operazione di... Però mi lasci dire una cosa, perché lei prima ha detto, Renzi ha diritto a una pattuglia di parlamentari, io invece la vedo in un modo diverso. Penso che il PD, quando ci sono state le primarie nazionali tra Renzi e Bersani, ha dato un'immagine di grande forza, una capacità di parlare a tanti settori del paese, e abbiamo visto anche i nostri sondaggi crescere vertiginosamente. Per cui se Renzi e Bersani lavorano insieme non è tanto un dovere di Bersani o un diritto di Renzi, io credo che sia il migliore interesse del Partito Democratico e anche del paese. Io ho detto così per semplificare, però è ovvio che poi dietro c'è tutto quello che ha detto lei, Scalfarotto. Mi interessava invece anche la questione, parlare di Monti, sentire la sua opinione sull'operazione Monti. Il PD ha sostenuto abbastanza disciplinatamente il governo Monti, adesso però chiaramente siamo in campagna elettorale, le cose cambiano, ci sono questi attacchi di Monti, soprattutto sulla sinistra del partito. Intanto però c'è un tema che credo a lei stia a cuore, quello dei diritti civili. Monti ha detto non ci interessa, non è un tema su cui faremo campagna elettorale. Ma io credo, l'ho detto sin dalla prima conferenza stampa del presidente Monti il 23 dicembre, il fatto che non si parli di diritti civili in quell'agenda è un problema molto grave, molto serio, tant'è che oggi lo riprendono sia Stefano Rodotà su Repubblica che Vladimiro Zagrebelsky sulla Stampa. Diritti civili e diritti sociali e diritti economici vanno a braccetto, non si può pensare di modernizzare l'Italia sul piano economico, di liberalizzarla e poi non introdurre le medesime liberalizzazioni per quello che riguarda la vita delle persone. È un po' una modernizzazione zoppa. E poi Monti parla sempre dell'Europa, no? Dice che noi dobbiamo essere evidentemente molto europeisti, ma si dà il caso che l'Europa da anni ci tira le orecchie per le nostre leggi, tipo quella sulla fecondazione assistita o sull'assenza di leggi sulle coppie omosessuali. E allora mi chiedo se il nostro essere europeisti, secondo il presidente Monti, può essere fatto soltanto da un lato e non dall'altro. Ma secondo lei questo silenzio di Monti su questi temi, che anche secondo me sono abbastanza importanti, il riconoscimento dei diritti delle coppie gay, il fine di vita, eccetera, questo silenzio di Monti è strategico perché è sorretto da una coalizione eterogenea se non a dominanza cattolica, e quindi da questo punto di vista è un imbarazzo non poter fare delle proposte avanzate su questo, lui che si ritiene un innovatore, oppure cosa? Guardi, io sono una persona che rispetta e ammira molto il presidente Monti e sono stato nel partito tra quelli che hanno sostenuto il fatto che noi dovessimo essere leali e disciplinati nel sostegno al governo. Però in questo caso questo davvero mi sembra un problema, ed è chiaro che il fatto che il principale alleato di quella coalizione sia Casini, ci sia l'UDC, ci sia stato un forte endorsement, come dicono gli americani, da parte del Vaticano, della Santa Sede, della Conferenza Episcopale Italiana, crea un problema, perché questo silenzio non può non essere interpretato alla luce di queste alleanze. Senta, ma invece tornando al discorso di prima, in casa PD, c'è stato questo spostamento a sinistra dopo la sconfitta di Renzi, le parlamentarie che hanno dato forza a candidati bersaniani, l'alleanza che c'è da mesi con Vendola? Ma io, guardi, penso che una delle caratteristiche principali e migliori del Partito Democratico sia la sua pluralità. Noi siamo un partito che è nato qualche anno fa proprio per sconfiggere l'idea di piccoli partiti identitari e creare partiti, come si diceva un tempo, a vocazione maggioritaria. C'è sicuramente una linea economica, che è quella di Stefano Fassina, che per esempio è molto diversa dalla mia, ma nei grandi partiti democratici nel mondo succede che le linee anche contrapposte devono poi produrre una sintesi. Questa è la grande responsabilità del segretario Bersani, e noi siamo fiduciosi che lui farà un eccellente lavoro. Cioè, lei non condivide molte delle idee di Fassina, però dice questo non è un problema, troveremo una sintesi. Però in passato governi dell'Ulivo, per esempio, che hanno avuto lo stesso problema, non hanno trovato sempre questa sintesi felice. Cosa vi fa essere più ottimisti adesso? I governi dell'Ulivo erano fatti da 7, 8, 9 partiti, fatti con diversi leader. In questo caso noi abbiamo un leader che è stato legittimato da un mandato popolare fortissimo, che è Pierluigi Bersani. Abbiamo un alleato, è vero, come Vendola, ma nella Carta degli Intenti abbiamo previsto che cosa succede in caso di disaccordo. Si riuniscono i gruppi parlamentari, si prende una decisione a maggioranza che vincola tutti i gruppi dell'alleanza. Questo mi rende abbastanza ottimista, anche se evidentemente governare un paese importante e difficile come l'Italia non è un gioco da ragazzi, ma io penso che noi abbiamo le migliori persone, le meglio attrezzate per questo lavoro. Oggi Vendola, per esempio, ha detto alcune cose, ha detto per esempio non esclude un dialogo con Ingroia. Lei esclude un dialogo con il movimento di Ingroia o no? Io lo escludo, sì. Perché lo esclude? Ma io già sono un po'. Scusi, devo aggiungere anche. Scusi, Scarfalo, devo aggiungere una cosa, perché poi lo stesso Vendola poco dopo ha detto: bisogna anche vedere cosa vorranno questi qua di Ingroia, perché per ora ha detto c'è ancora un po' di fumo e di confusione. Questo ha detto, però poi ha detto: non escludo la possibilità di dialogare. Lei invece, guarda, stava dicendo? Nella sinistra le distinzioni tra riformisti e massimalisti sono antichissime. Adesso il fatto che Ingroia abbia deciso di chiamare il suo partito Rivoluzione a me già fa un po' specie. Poi tra l'altro questo enorme scritto Ingroia sul simbolo francamente mi sembra non una grande scelta. Ma è vero che lui è ancora in Guatemala, tra l'altro, che non... Sì, insomma, io sogno come una si fa a fare la rivoluzione senza dal Guatemala. Sì, quindi questo Bersani ha detto chiaramente: su questo siete allineati, niente personalismi. Ma il nome di Bersani. Ma non è soltanto il personalismo, sì. È che i partiti dovrebbero sopravvivere alle persone. Il Partito Democratico Americano è stato fondato alla fine del Settecento, è ancora lì. Noi invece abbiamo le persone che sopravvivono ai partiti, e questo è un elemento fondamentale di debolezza della nostra democrazia. Allora, noi siamo il Partito Democratico, abbiamo sempre un segretario pro tempore, e poi il partito resta, i segretari passeranno. Invece, se uno c'ha scritto Ingroia sul simbolo, se viene via Ingroia non resta niente. Resta Pellizza da Volpedo, però conteso, perché il sindaco... Beh, anche un po' maltrattato. Sì. No, questo non lo so. Il sindaco di Volpedo ha fatto polemica perché ha detto... È un socialista, tra l'altro, quindi c'è una vecchia questione su questo. No, dico che proprio graficamente il simbolo è brutto. Vabbè, quella è una stilizzazione. Ognuno poi la giudica. Scalfarotto, qualora, come sembra anche possibile, il Partito Democratico, candidato sicuramente secondo gli ultimi sondaggi a vincere le elezioni, Piepoli lo dà al 34-35%, credo, l'alleanza con Sella al 42%. Però al Senato si sa che la legge è complessa e avere la maggioranza solida, del resto è già successo a Prodi nel 2006, qualora questa maggioranza non fosse così solida, il dialogo è obbligato con Monti? Ma guarda, io credo che il dialogo con Monti sarà obbligato non tanto dai risultati elettorali quanto dal fatto che alcune delle cose che Monti ha fatto noi le abbiamo votate per convinzione, perché c'era una necessità. L'idea di dover tenere i conti in ordine, di modernizzare il paese, ci sono alcune cose che sicuramente saranno oggetto della discussione, non tanto per una questione di numeri, ma una questione di priorità per il paese, per cui io non sono particolarmente preoccupato. Quello che penso è che finalmente la parola sta tornando alla politica e che avremo un governo politico eletto dai cittadini, che è quello che accade normalmente in tutte le grandi democrazie mature. Ma alla fine ci sarà il nome di Bersani nella lista, nella vostra lista? Bersani sarà capolista in uno o più collegi, sì. Adesso non so esattamente che decisione si prenderà, ma ho visto i manifesti, c'è scritto l'Italia giusta, c'è la faccia di Bersani, ma non c'è il nome sul simbolo, almeno per quanto ne so finora. Senta, e invece secondo lei che tipo di parlamentari saranno gli esponenti del Movimento 5 Stelle? Cioè, per quello che si è visto fino ad ora, per quello che è la sua esperienza, insomma, c'è anche un po' di interesse, di curiosità su questo. Tutti vogliono sapere cosa faranno, anche lì si trincereranno dietro posizioni, diciamo, un po' contro tutti, oppure gioco forza, poi nel gioco delle alleanze sarà possibile dialogare, per esempio con i grillini sull'ambiente, sulla partecipazione, avete delle cose in comune o no? Ma io non ho francamente chiarissima la linea politica di Grillo. Per quanto riguarda i suoi parlamentari, io spero soprattutto che siano liberi e che siano rispettati, e cioè che possano esprimere liberamente le proprie opinioni senza che nessuno evochi il loro punto di vista. Espulsioni o cose così. Al movimento. Ecco, questa è la prima cosa. E poi lo vedremo durante l'attività parlamentare. Immagino sarà una compagine molto multiforme, con persone senza particolare esperienza e che magari però portano freschezza e portano conoscenza dei territori, delle loro professioni. Non so quanto saranno omogenei e quindi non so quanto Grillo sarà in grado di dare loro una linea. Questo lo vedremo. Ecco, io mi auguro soltanto che siano in condizione di esercitare il loro mandato senza vincoli, come dice la Costituzione italiana. Questo per lei è la cosa più importante, queste forzature che ci sono state, queste espulsioni. Guarda, io questa cosa la trovo gravissima. Trovo che sia veramente molto pesante il fatto che Grillo appunto gestisca i suoi seguaci, che sono persone secondo me rispettabilissime, che esprimono magari anche dei bisogni altrettanto rispettabili, però il fatto che lui lanci degli editti e spella, butti fuori, tolga il simbolo dell'uso del simbolo alle persone, mi pare francamente inquietante. Niente di nuovo. Va bene, io la ringrazio, auguri anche di buon anno, perché siamo all'inizio, insomma, ce lo possiamo ancora dire. Grazie, buona serata, Ivan Scalfarotto. Buonasera. 800 24 00 24, cominciamo a sentire i vostri interventi, cari ascoltatori. Cominciamo da Giuseppe, che ci chiama dalla provincia di Trapani. Buonasera. Buonasera. Prego. Allora, noi abbiamo fatto delle piccole condizioni, ecco, io... Volevo... Cos'è che ha fatto lei, scusi? Non ho capito. Le conticine, così. I conticini. Ci siamo messi a giocare con gli amici. Sì. E qui abbiamo fatto una specie di... No, guardi, non si sente, Giuseppe, mi dispiace. Proviamo a migliorare la qualità di questa telefonata. Andiamo intanto a Salvatore dalla provincia di Ancona. Buonasera. Pronto? Eccoci qua, Salvatore. Pronto? Mi sente? La sentiamo forte e chiaro, prego. Allora, no, io chiamo per una semplice provocazione, che qui si parla sempre, lei, la conduttore, i politici corrotti, cosa si può fare, non si può fare. Abbiamo l'esempio del presidente della regione Sicilia, lui si è tolto, i siciliani che con Grillo e con la votazione innovativa hanno dato un segnale, hanno rivotato il filo. No? Quindi io posso paragonare, i politici, lei sa cos'è una mala pianta, le piante infestanti, no? Hanno sviluppato dei sistemi che sono delle normali piante, si propagano in maniera particolare, i semi a ondate successive, i politici fanno lo stesso, si propagano, si ramificano in una maniera che diciamo, le normali attività non riescono a contrastare. Quindi io voglio ricordare solo, non è che l'auspico, ma insomma così, la storia del generale Pol Pot della Cambogia. Non so se lei lo conosce, dei Khmer Rossi, la storia la conosce? Sì, vabbè, vada avanti. Cosa... Niente, lui, sì. Probabilmente, lui è uno che aveva studiato in America, una persona. A un certo punto ha deciso di tagliare completamente la testa al toro, di imprigionare tutti i politici, di, insomma, di dare un'azione molto forte. Chiaramente dopo è andato oltre, ha cominciato a allargarsi, a imprigionare chi aveva studiato, chi parlava l'inglese. Ma perché lei ci sta dicendo tutto questo adesso, perché, oggi il 3 gennaio alle ore 18:37? Perché non c'è soluzione al problema. I politici, diciamo, si propagano sempre con i loro simili, quindi cosa noi possiamo mettere quello che appare più buono, più tranquillo, ma la modalità di perpetuare, diciamo, le loro attività... Cioè lei è nostalgico di Pol Pot, vorrebbe uno che sterminasse tutti i politici. Vogliamo nominare anche Mao Zedong, lui diceva... Ne colpisci uno per educarne 100. Questi invece tra loro si salvano, impediscono i processi e quindi si sentono tutto sommato fiorito, è uscito, tranquillo, adesso sta a casa sua. Per cui se non c'è un'azione forte di qualcuno, parliamo per altri 20 anni senza nessuna soluzione. Parliamo, Salvatore, grazie. E chi, l'ascoltatore di prima l'abbiamo recuperato? No, lo recupereremo dopo. Intanto andiamo a Vincenzo che ci chiama da Milano. Buonasera. Vincenzo, ci sente? Eccolo qua. Prego. Ciao, no, non chiamo da Milano, chiamo dalla provincia di Caserta. È strano perché il mio potrebbe essere l'inganno. È molto strano. In effetti, no, sto scherzando, perché a me hanno scritto così, però è chiaro che siamo in due mondi diversi, insomma. Però... Vincenzo dalla provincia di Caserta. Caserta. Eccoci. Ascolti, io volevo dire che, insomma, giro un po' l'Italia per il mestiere che faccio e purtroppo sto notando che l'azione di Monti... per quello, il salvatore della patria, no? Come si era un po', diciamo, dipinto, mi pare che tutto sommato questo non sia stato, perché dal punto di vista, diciamo, della classe media a cui io ritengo modestamente di appartenere, abbiamo visto che ha inciso sulla carne viva delle persone, cioè le tasse che stiamo pagando, bene, avremmo anche salvato l'Italia, si sarà anche abbassato lo spread, ma la gente sta male. Cioè, voglio dire, la politica, se Monti pare che adesso sia un politico, cioè, pare che sia candidato anche contro quello che è, diciamo, la carta, quello che dice la carta delle carte, no? Sì, però io vorrei dire una cosa, ho capito lei dove vuole andare a parare, perché poi è una cosa pensata da molti, insomma, però non mi fate difendere per forza sempre Monti, perché poi chiamano quelli che dicono che faccio parte dell'apparato, adesso dopo lo risentiamo l'ascoltatore di ieri, però non è che le tasse prima di Monti non c'erano, non è che noi venivamo da un'Italia dove la pressione fiscale era al 20% e poi con Monti è salita al 45%, eravamo al 45%, siamo al 45,1%, non lo so, è aumentata? Sicuramente, è diminuito il debito pubblico, il dato è di ieri, sicuramente, però le tasse c'erano anche prima di Monti, dopodiché questo non assolve a quello che non ha fatto Monti per la crescita e poi ovviamente ogni volta che uno sta al governo si becca le critiche di chi non sta bene, però questo va detto ogni tanto, se no sembra che le tasse è un'invenzione di Monti, non è un copyright suo, non mi risulta, insomma. Ma in effetti sì. Non è una invenzione di Monti queste le tasse, diciamo che lui è stato costretto ad agire in un certo modo perché, visto, diciamo, i governi precedenti che hanno galleggiato senza fare delle riforme che erano necessarie, quindi bisogna dire che c'è anche questo, no, alle spalle, però voglio dire, dipingere Monti come il salvatore della patria mi sembra un po' eccessivo a mio modestissimo avviso, insomma. Ma chi è che lo dice? Cioè, sta dicendo a me o in generale? Non a lei, lo dico a Napolitano, per esempio, l'altra sera che ha ricordato ancora una volta, lei si riferisce a questo, cioè alla visione istituzionale per cui... Monti è figlio di Napolitano, volevo dire. Sì. No, infatti per quello ho citato Napolitano. Non scopriamo l'acqua calda sotto questo punto di vista, però insomma quello che volevo rimarcare è che loro vivono, cioè la politica in generale vive in un mondo tutto dorato, tutto chiuso, in una gabbia dorata chiusa, vivono una realtà che non ha nulla a che vedere con la realtà quotidiana delle persone, con la gente che fa i conti tutti i giorni con i 500 euro al mese di pensione, con i lavoratori che si devono alzare la mattina e portare a casa i 1200 euro, con i pensionati che sono stati massacrati da questa operazione, dall'operazione Fornero. Tanto è vero che la Fornero adesso non può perdere da nessuna parte perché la contestano dovunque vada. E allora questo, ma il mio, ecco, voleva essere un osservatore. Va bene, grazie Vincenzo. Okay. Andiamo, dove andiamo? Mario che ci chiama da Roma, buonasera. Sì, salve, buonasera. Eccoci qua. Ieri sera ho sentito la trasmissione dove parlava l'ex operaio Fiat, o l'operaio Fiat. Giovanni Baruzzino, candidato di Sella alle prossime elezioni, sì. Questo a me fa pensare a come va l'Italia. Come si fa a candidare un operaio di una catena di montaggio che l'azienda dove lavora lo schifa, lo paga per non venire a lavorare? Ma dove possiamo andare con gente così? Ma quando si arriva all'Italia? Scusi, ma non è che se l'azienda lo schifa lo devono schifare tutti. L'azienda ha delle legittime posizioni, ma non è che l'azienda è l'Italia. La Fiat è diversa dall'Italia. Viene schifato da chi lo paga. Gli dice, guarda, ti pago, basta che non ti vedo. E lui, ma questo cosa vuol dire? Scusi, non è che tutti gli italiani sono d'accordo con la Fiat. Ci sarà anche chi dà torto alla Fiat e voterà per Baruzzino. Io immagino la persona, cioè questo è diventato un parlamentare, deve diventare cosa? Lui ci dirà cosa dobbiamo fare? Ma noi siamo rovinati per colpa di queste persone, abbiamo bisogno di persone competenti, che non siano politicanti, competenti, ma che siano dei poveracci. Che non sanno sbatta la testa. Ma che è un poveraccio lo dice lei, perché è un poveraccio? No, la Fiat l'ha accusato di sabotare la catena di montaggio. Il magistrato, tra l'altro, ha detto che non era così. Adesso poi è un'avvertenza tra la Fiat e il sindacato e questi lavoratori. Ognuno si fa l'idea che vuole, ma non è un poveraccio. No, un poveraccio di idee. Che cosa ci può trasferire lui? Come ci può aiutare? E allora noi l'abbiamo intervistato, abbiamo fatto sentire le sue idee e dopodiché ognuno si fa l'idea che crede. Lei non lo voterà, altri lo voteranno e siamo in democrazia. Ma il problema è che gli altri lo votano, sì. È questo il problema, è che lo votiamo, come votiamo sempre i soliti politici e poi ci vogliamo salvare. Salvare da cosa? Siamo rovinati, se non mettiamo delle persone competenti ai posti giusti, siamo rovinati. Va bene, e chi è competente? Lei ne sa qualcosa? No, io assolutamente, sennò provavo a fare politica. Competente è chi sa fare le cose, non chi non le sa fare è improvvisato solo perché è stato protagonista di una vicenda. Vabbè, questo è possibile che ci sia, che Sell sfrutti la bandiera per avere un traino elettorale. Questo è possibile, bisognerebbe poi conoscere il personaggio e sapere cosa si può, le idee che ha, eccetera. Però non, quando lei dice poveraccio, forse esagera. No, ma poveraccio non intendevo poveraccio in maniera brutta, poveraccio. Però l'ha detto. Io dico, per carità, mi scuso di questo. Poveraccio nel senso una persona che non ha un'esperienza per fare il parlamentare, perché ha fatto l'operaio, non è che ci può aiutare più di tanto. Le abbiamo avute queste persone in Parlamento, l'abbiamo visto su Striscia la Notizia, persone che non sapevano neanche manca la Costituzione, stavano lì solo perché avevano attaccato i manifesti. Ma lei che ne sa che Baruzzino la Costituzione magari non la sa meglio di quelli che erano stati presi in castagna proprio dalle Iene, che erano politici, come dice lei, tutti in giacca e cravatta, perfetti, poi non sapevano un piffero, quindi vede, l'apparenza a volte inganna. Traffico. Strade in diretta. Disagi in entrata a Salerno, si resta in coda per il traffico intenso e per un incidente ora comunque risolto sulla carreggiata nord dell'A3 a partire dal bivio per il raccordo Salerno-Avellino. Altre code in Campania all'altezza di Caserta sulla carreggiata nord dell'Autosole per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria, mentre sulla 16 Napoli-Canosa all'altezza di Avellino Ovest verso Napoli è appena avvenuto un tamponamento tra 4 veicoli. Sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare code a tratti tra Ardeatine e Appia per il traffico e per un incidente. Lungo la 26 dei trafori Liguria code di 2 km per un incidente con un camion coinvolto tra il bivio per la 10 e Masone sulla carreggiata nord. Si transita su una sola corsia. Attorno a Milano da segnalare delle code per il traffico all'uscita di Carugate sulla tangenziale est e altre code in uscita dal capoluogo lombardo sulla 8 alla barriera di Milano Nord e in entrata a Milano sull'Autosole alla barriera di Milano Sud. È tutto, strada in diretta, torna tra mezz'ora. La Zanzara. Intanto leggo una notizia dall'ANSA di poco fa, di Maroni. Sapete che oggi è stata sospesa la partita del Milan con la Pro Patria per i cori razzisti nei confronti dei giocatori di colore del Milan. Cori razzisti, dice Maroni, contro giocatori di colore del Milan. È una vergogna. Bravo Allegri, giusto ritirare la squadra. Così il segretario federale della Lega, peraltro tifoso rossonero, ha commentato su Twitter i cori razzisti durante la partita. Chissà se in passato l'ex leader della Lega, Umberto Bossi, avrebbe usato espressioni del genere. 800 24 00 24 di condanna dei cori razzisti. Questo era Maroni. Riprendiamo con i vostri interventi. Chi ci abbiamo? William da Benevento, buonasera. Sì, sì, salve, buonasera a tutti. Eccoci qua. Senta, no, io volevo semplicemente mettere un po' in evidenza lo stato di difficoltà in cui versa il PDL. Noi sappiamo tutti che in campagna elettorale, anche non in campagna elettorale, un partito dà l'idea, deve dare l'idea che è vincente, forte. Berlusconi parlava che voleva addirittura raggiungere il 40%. Oggi addirittura questa possibilità di fare un passo indietro la dice tutta. La dice tutta nel senso che i cittadini, ormai gli italiani, sono consapevoli di quelle che sono state le mosse poco coerenti negli ultimi tempi. Cioè, noi manco 20 giorni fa a Berlusconi indicava Monti come il personaggio ideale per guidare i moderati in Italia e portarli verso una forte coalizione, si è contraddetto dopo 10-15 giorni. Non penso che poi i cittadini sono così stupidi da questo punto di vista, non capire la difficoltà e l'arrampicarsi sugli specchi. E io ritengo che a breve avremo un passo indietro forte di Berlusconi e una candidatura di Alfano alla presidenza del Consiglio, perché secondo me i sondaggi non sono proprio buoni. Un'ultima cosa volevo dirle. Per lei questo sarebbe meglio per il PDL? Sì, sicuramente potrebbe dare più spazio, quantomeno rafforzare. Però Berlusconi sostiene il contrario, che con lui in campo i sondaggi, vabbè, che se lo dice lui, le dice non sì, c'è la contropartita. Ormai quelli lì già l'ha recuperati sull'effetto sensazionale, adesso bisogna un po' andare sul concreto. Sì, e soprattutto recuperare l'alleanza con la Lega, per cui se ci fosse Berlusconi candidato a presidente non ci starebbe la Lega. Quindi andrebbe in due direzioni, per una mi faccio indietro per il bene dell'Italia un'altra volta, do lo spazio ai giovani eccetera e accontento tutti e me ne esco così a testa alta, e l'altro apro alla Lega. Poi le volevo dire soltanto un'altra cosa, io lavoro nel settore della finanza, in un ufficio studi di una sim. Molta colpa di questo populismo, di questa arringa contro l'Italia, contro Monti, contro questo, è dovuto molto anche ai social network. Noi viviamo in un mondo dove le informazioni viaggiano così veloce, fatte di slogan. Cioè gli italiani non sono consapevoli tanto che significa viaggiare a uno spread di 450-500 punti, cioè quando ti chiudono le porte e non ti finanziano più i 300-400 miliardi che è di titoli a scadenza, lì l'Italia andava in default, cioè c'era poco, a novembre mancava poco che c'era problemi di cash flow proprio per lo Stato italiano, cioè qui ci trovavamo nelle condizioni che c'era anche a rischio addirittura gli stipendi. Va bene, sì. Per cui io non è che voglio fare dell'allarmismo, però andrebbe fatta probabilmente anche da parte degli organi di stampa un poco più eccelsi, da parte della carta stampata, un po' di più informazioni da questo punto di vista. Grazie, grazie. Intanto voglio dare un'altra notizia. La giornalista del Mattino, Rosaria Capacchione, sarà candidata con il PD. È l'autrice dell'Oro della Camorra, i napoletani la conoscono. Qualcuno dice di lei che è la vera giornalista anticamorra, non come Saviano, insomma autrice di vere inchieste, e vabbè, sarà candidata col Partito Democratico, ha accettato poco fa, ci fa sapere tramite agenzie, la candidatura. 18:50, sentiamo, visto che l'abbiamo citato poco fa, ieri sera, per chi non l'avesse sentito, non per citarci, ma insomma è stato così interessante questa telefonata di un ascoltatore che invocava l'apparato. L'apparato sì. A cui lei appartiene, no, diciamo lei viene usato, le potrebbe dare una medaglia. Lei sta dicendo un sacco candidare. Di cavolate, guardi, l'apparato da cui io vengo usato? Sì. Vada avanti, è interessante. Io penso che lo potrebbe pure candidare, no? Lei è perfetto. L'apparato. Candidato per chi? Per l'apparato. Sì, per l'apparato. Lei lo sa a chi mi riferisco, no? No, me lo dica lei, come faccio a saperlo? No, ma lei... Cos'è, una cosa tra me e lei? Non lo so. Chi è l'apparato, scusi? L'apparato a cui appartiene, diciamo, anche il suo presidente, tutti quanti, no? L'apparato. Sa a cosa mi riferisco, lo sa. Facciamo finta che io lo sappia, ma facciamo in modo che lo sappiano anche gli ascoltatori che ci stanno ascoltando, perché non stiamo parlando solo io e lei. Cosa si riferisce? No, mi riferisco che lei, cioè, a volte quando parla sembra che sia stato pagato oppure le hanno promesso io qualcosa. Io sono pagato, giuro che sono pagato, stipendiato sì, tutti no, i mesi. Certamente, sì, se lo devo guadagnare il pane, no? Sì. Però io penso che... Non abbiamo capito nulla di quello che lei pensa, guardi, non abbiamo capito nulla di quello che lei pensa. L'apparato, sì, mi dica cos'è l'apparato, abbia il coraggio di dire cosa pensa, cos'è l'apparato, perché se no cos'è, un avvertimento mafioso? L'apparato. No, ma mi dica lei cos'è l'apparato, perché sennò così sembra un avvertimento mafioso. Ma lei chi è? Scusi, chi è l'apparato? Mi dica cos'è l'apparato. L'apparato a cui lei appartiene, no? Sì, vabbè, non si... Allora, no, ma lei mi deve dire così. Qualcosa di più di questo apparato. Cioè, adesso stiamo tutti sognando. Un applauso. Sì. Un applauso. E ci è riuscito perfettamente a ridicolizzare e sputtanare, no? Ha fatto molto bene. Io ho riportato le dichiarazioni di Berlusconi commentandole. Questo lei lo chiama sputtanare. No. Lei ha fatto solo è possibile. Ha fatto solo critiche, ha fatto. Sì, ho fatto molte critiche. Solo critiche. No. E allora? Cioè, non ha detto una cosa, che non è... Cioè, quando si fa una trasmissione... No, l'ho detto una cosa. Ho detto che sul fatto del bipolarismo ha ragione Berlusconi, l'ho fregata. Si vada a riascoltare, quello l'ho detto. Però mi deve dire cos'è l'apparato. Io pendo dalle sue labbra. Io dico che l'apparato... Guardi che se lei non dice cosa intende per apparato, si sputtana lei, perché ha fatto un intervento fesso. Bravissimo è stato stasera. Continui così. Guarda, cos'è l'apparato? Cos'è l'apparato? Continui così. No, cos'è l'apparato? Mi scusi, non mi lasci così. Non vada via. Poi perché... Glielo dirò un'altra volta. Okay? No, lo devi dire adesso. No. È questo il suo momento. Continui così, bravissimo. Ma io continuo così sicuramente, perché non so far altro, però lei non ci ha detto niente di questo apparato. Farà molta strada, va bene. Tanta buonasera. Ne ho già fatta. Buonasera. Si è offeso. Buonasera. Ma come buonasera? L'apparato? È caduta la linea. Salirò, salirò fra le rose di questo giardino. Salirò. Vabbè, io risentendola, insomma, mi sono morto da ridere, perché io lo rivorrei stasera questo ascoltatore che richiamasse, però per dire qualche cosa davvero in più su questo apparato, perché ci ha lasciato così, è caduta la linea. Vabbè, è stato incredibile. 18:54, abbiamo ancora qualche minuto prima del giornale radio, vediamo se qualcun altro vuol parlare dell'apparato. Ivan da Milano, buonasera. Pronto, sono eccolo io. Qua, sì, è lei, siamo noi. Sì, ciao. A parte che adesso che ho sentito l'ultimo ascoltatore, mi conferma che l'Italia è un paese di pazzi. Mi dispiace, ma veramente ce ne sono veramente pochi sani in questo paese. Parlo di questo qua che ha parlato prima e poi di quella pazza di nome Lidia del 27 che difendeva Don Piero. Ah. Dico, ma sta gente qua dove cazzo è uscita? Ma me chiudiamoli del manicomio! Cioè, ma veramente, io ascoltando la vostra trasmissione, sì, mi convinco sempre di più che l'Italia è piena di coglioni! Cioè, veramente, ma dove cazzo vogliamo andare? Oh, vabbè, però, Ivan, diamoci una calmata, adesso, cioè, in due minuti ha già detto 7-8 parolacce. Ma, voleva dire qualcos'altro di più costruttivo, oppure... Ivan, fra l'altro la sentiamo anche male. Sì, no, ma consultivo, sì. C'è questa veloce che difendeva Don Piero ed era una donna, sono veramente senza parole. Vabbè, Don Piero, la vicenda della settimana scorsa, il parroco di San Terenzo in provincia di Leri, in frazione di Lerici, che aveva scritto quelle frasi sul femminicidio deliranti. Grazie, andiamo a Claudio che ci chiama dalla provincia di Latina. Buonasera Claudio. Sì, buonasera. Volevo... Lei sa qualcosa dell'apparato? No. No, purtroppo no, neanche mi dispiace lei. Tanto, vale, ma non posso pronunciarmi sull'apparato. Volevo invece dire qualcosa a proposito delle dichiarazioni dell'esponente del PD Scalfarotto sul Movimento 5 Stelle. Da simpatizzante, se è possibile, prima di tutto gli farei notare che il programma, se non gli è chiaro, è esposto sul sito del Movimento 5 Stelle. E poi... non capisco come gli esponenti del PD e quindi del vecchio Partito Comunista si ergano a baluardo della libertà di espressione anche dei singoli possibili futuri parlamentari del Movimento 5 Stelle, provenendo appunto da un partito che ha fatto dell'apparato e un po' della... Vede che lei dell'apparato ne sa, eh? qualcosa ne sa. Dell'apparato del partito un punto di forza. Vorrei che ci fosse maggior coerenza pur nel proprio diritto di critica, ecco, questo, semplicemente questo. Vabbè, l'appunto a Scalfarotto, io però devo dire, non per difendere Scalfarotto, però credo che lui intendesse non tanto i programmi del Movimento 5 Stelle, quanto anche le dichiarazioni di Grillo, che insomma, lei mi confermerà, a volte vanno in tutte le direzioni, cioè non è che ci sia molta coerenza spesso tra il programma e le dichiarazioni di Beppe Grillo, che sappiamo ne dice più di Bertoldo. Sono d'accordo sugli eccessi, ma non eccessi, proprio anche la quantità e la qualità delle dichiarazioni. Vabbè, comunque 800 24 00 24, poi ancora insieme con i vostri interventi. A dopo. La Zanzara. Intanto voglio leggervi questa notizia che mi spinge ad andare a vivere in Slovenia. Il nuovo presidente della Slovenia, il socialdemocratico Borut Pahor, ha rinunciato alla sua unica residenza ufficiale. La Slovenia è un piccolo paese, d'accordo, però è una villa di montagna dove risiedeva anche Tito, perché in questa condizione di crisi economica l'ha messa a disposizione del governo per farci quello che gli pare, lui se ne sta a casa sua. Io vorrei vivere in Slovenia, o quantomeno ve lo immaginate in Italia una cosa del genere? 800 24 00 24. È scoppiata letteralmente la campagna elettorale con tutti i leader che se le danno di santa ragione. Sentiamo Monti contro Fassina. Credo che sia una buona cosa. Io ho constatato in questo anno di esperienza di governo, e lo dico con il massimo rispetto, che coloro che hanno impedito alle riforme, alle varie riforme, al mercato del lavoro, più concorrenza, eccetera, di andare più avanti come noi avremmo voluto, sono stati da una parte coloro che sono nel blocco più tradizionale della sinistra, che vuol dire la CGIL, la FIOM dal punto di vista sindacale, Vendola e il SEL, e l'onorevole Fassina dal punto di vista politico, e dall'altra parte molte posizioni dentro il PDL. Fassina ormai è diventato il simbolo, almeno per molti, e compreso Monti, così, del conservatorismo in casa PD. Fassina, solo lui, tutti gli altri no. Vabbè, Fassina in effetti è responsabile economico e ha avuto una vecchia storia di dissidi, insomma, anche con Ichino, però poi si è sempre detto che quella di Fassina è la linea economica del Partito Democratico. Però abbiamo intervistato, è tutto un però, no? Scalfarotto, in apertura del programma, vicepresidente del PD, che ha detto in effetti io con Fassina tante volte non vado d'accordo. La risposta di Fassina a Monti. Presidente Monti sta insieme a Marchionne, Montezemolo, Passera, grandi imprese e grandi banche. Noi siamo insieme ai giovani precari, ai lavoratori, artigiani, commercianti, pensionati, e vogliamo restituire dignità alla persona che lavora. Poi Fassina, che ha definito la lista civica che sosterrà Monti la lista civica del Rotary, insomma, perché si commenta la sera. Simpatica l'immagine dell'onorevole Fassina che dice che la lista Monti sembra il Rotary, così dimentica i più deboli. Io non la conosco ancora la lista Monti, si vede che lui ha già una buona immaginazione. Comunque volevo richiamare l'onorevole Fassina a... avere una visione un pochino più... Io, a differenza di lui, sono una persona anziana, quindi ho fatto diverse cose nella vita, come già anche lui naturalmente, e quelle per cui sono un po' ricordato in Europa sono state tutte azioni contro i potenti. E comunque che le tasse siano il centro, le tasse, la tassazione e quello che bisogna pagare allo Stato, del dibattito politico dappertutto. In America si è appena chiusa la questione del fiscal cliff, è in dubbio. In Francia, sentite qua oggi il ministro dell'economia sociale e solidale, Benoît Hamon, che ha detto: sentire certi detentori di grandi patrimoni gemere per il livello di tassazione di cui soffrirebbero è qualcosa di particolarmente indecente. Questo oggi il ministro francese. Sentiamo ancora Vendola a proposito di Monti, credo, oggi la conferenza stampa. Abbiamo fatto sentire vari passaggi di Vendola, che ha presentato le liste di SEL alle prossime elezioni. Sentiamo. Io credo che Monti dia una rappresentazione di questo anno di governo che è molto berlusconiana. Sta infilando uno dietro l'altro spot propagandistici, anche occupando il sistema dei mass media, da, diciamo, virtuoso discepolo del suo predecessore. Questa è la verità. (800) 24 00 24 per intervenire in diretta tra poco con i vostri interventi, cari ascoltatori. Adesso salutiamo Giuliano Cazzola, buonasera. Buonasera a lei, agli ascoltatori. Ex esponente del PDL, possiamo dirlo ufficialmente? Sì, sì, può dirlo, può dirlo. Perché lei ha aderito, insomma, all'agenda Monti già da un po', un malpancista del PDL. Da quanto, Cazzola? Ripercorriamolo. Guardi, sinceramente, diciamo, sono un malpancista dal 2011, la primavera del 2011, poi avevo pensato che ci fossero delle grandi possibilità, si aprissero comunque delle possibilità quando Berlusconi ha fatto un passo indietro. Il partito è stato diretto da Alfano, da un gruppo dirigente appunto diverso dal presidente Berlusconi, e il partito è stato deciso e abbastanza allineato, anche se con dei problemi interni, nell'appoggiare il governo Monti. Io credevo che noi dovessimo intestarci l'azione del governo Monti, che è stata nel bene e nel male, insomma, nel senso che non è che tutto è stato perfetto o fatto nel migliore dei modi, un'azione importante anche nell'interesse del paese. Poi c'è stato questo strappo che io ho giudicato, e l'ho messo per iscritto, una delle cose più stupide che abbia visto fare in 50 anni di vita politica, e da allora, insomma, ho preso anche le decisioni che davano prese, nel senso ho continuato a votare la fiducia al governo. Poi, quando si sono sciolte le Camere, ho ritenuto che la mia posizione con quella del PDL, vista anche la campagna elettorale che nel frattempo il PDL faceva, dovessero separarsi. Insomma, lei è un esponente del centrodestra, viene dal sindacato, a dire la verità. Insomma, è un esponente, uno che si occupa per esempio di questioni economiche, molto ascoltato. Quindi, insomma, quello che lei dice dovrebbe avere un certo peso. Adesso, però, quello che ci interessa, Cazzola, è che lei ci dia qualche dettaglio su questa benedetta lista Monti. Insomma, non si sa ancora molto. Quante saranno intanto? Non si sa molto, e io peraltro non è che sia in contatto con... Sì, lei non è che è al centro di tutta questa operazione, questo è evidente. No, sono al centro di questa operazione. Però, ecco, di quello che si sa, lo dicono poi anche i giornali, sì, che indubbiamente la scelta di fare una lista unica al Senato, anche per ragioni di legge elettorale, perché ci vuole un quorum particolarmente rafforzato per partecipare alle elezioni al Senato. E poi c'è questa idea di fare liste alla Camera. Alla Camera, e noi stiamo valutando se ci sono le condizioni per fare, sì, anche una lista del nostro gruppo, di chi si possa chiamare Popolari Italiani con Monti, Popolari Italiani per Monti. È una valutazione che stiamo facendo in queste ore, e lunedì o martedì dovremo, sì, cercare di ufficializzare una conferenza stampa. Lei con chi? Popolari con Monti includerebbe anche, cioè, soltanto provenienti dal centrodestra o anche dall'ex PD, cioè dal PD? Ma guardi, io credo che il discorso riguardi il centrodestra. Del PD magari si può fare un discorso al Senato, perché è al Senato dove c'è una componente, sì, più robusta del PD che è uscita. Non mi risulta che la Camera... Ora io fra senatori e deputati non facevo distinzioni a questo punto di vista, mi riferivo ai quattro cosiddetti transfughi del PD che dell'area popolare, sì. C'è Ichino, c'è Adinolfi, ma poi ci sono anche quattro esponenti. Ecco, Adinolfi è l'unico deputato, sì. Esatto. E poi c'è quel gruppo del del misto, del gruppo misto, quella componente del gruppo misto, che sono ex PD usciti nel tempo, usciti nelle, che non possiamo dire negli anni. Ecco, oggi il mio caro amico Santo Versace ha rivendicato la primogenitura di queste di queste uscite, cioè, e ha ragione, indubbiamente ha ragione, insomma. E questa potrebbe essere quindi la quarta lista alla Camera, perché le potrebbe altre essere, se ci sono le condizioni organizzative, potrebbe essere la quarta lista alla Camera. Peraltro ci sono contatti anche con Stefania Craxi, ci sono contatti con forze che si muovono in Sicilia nel Mezzogiorno, e lì diventa anche abbastanza complicato, perché ci vuole qualcuno che tiri le fila, e il rischio che corriamo è che ognuno invece pensi a se stesso e pensi a trovare una collocazione per se stesso e dimenticandoci degli altri. Poi bisogna, oggi credo che ci sia un incontro di qualcuno dei nostri, in particolare di Mario Mauro, che ha tenuto i collegamenti, e di Frattini con il presidente Monti, dove si dovrebbe decidere il quadro e poi all'interno di questo quadro vedere cosa si può fare. Perché per esempio la Russa oggi ha minimizzato, ha detto c'è solo Frattini che però non si candida, dei fuoriusciti. Ma vabbè, innanzitutto insomma io non sono autorevole come Frattini, ma sono fuoriusciti. Lei c'è, insomma. Io ci sono. C'è Mantovano, certo non abbiamo mai misurato il consenso che ci portiamo dietro, però sono convinto. Questa è l'occasione forse per farlo. Se ci fosse un soggetto politico, e un soggetto politico ci sarà sicuramente, se poi questo soggetto si tradurrà anche in una presentazione di liste è un altro discorso, ma noi sicuramente la prossima settimana costituiremo un'associazione, quantomeno un'associazione che sia di persone che si riconoscono nel Partito Popolare Europeo e che appoggiano Mario. E potrebbe appoggiare. Senta, Berlusconi dice anche oggi che Monti dovrebbe dimettersi o da senatore a vita o da presidente del Consiglio, perché altrimenti la sua candidatura non è legittima. Ma secondo me questa è bassa polemica elettorale, perché come ha detto anche il Presidente della Repubblica, ci sono precedenti di persone che sono, hanno presieduto governi tecnici, poi sono discesi o saliti in politica, e Lamberto Dini l'ha fatto ed è ancora in politica. Probabilmente l'operazione di Dini era un'operazione che ha meno spazio, che ha meno spessore di quella che sta facendo Monti, ma quindi non, veramente mi pare che sia una. E poi tra l'altro faccio notare che è assurdo che comunque sia da destra in maniera più rozza, sia da sinistra, si continua a sparare su Monti. È vero che anche lui tira qualche calcio negli stinchi. Eh sì, perché l'ha detto anche Letta, dice, del Partito Democratico. Fino a ieri andavamo bene, adesso comincia ad attaccarci. Ma questo però è inevitabile, la campagna elettorale. È inevitabile. Ognuno deve prendere il suo spazio. È anche positivo, visto che uno dice, il PDL dice che Monti è il cavallo di Troia del PD, invece dimostra che il PD non gradisce, diciamo, le prese di posizione polemiche che Monti fa, secondo me nei confronti di Fassina anche un pochino esagerate, no? Che fa verso certi settori del PD e soprattutto verso la CGIL. Senta, ma i giornali parlano di un Monti alle prese anche con la questione del simbolo, vari bozze, anche il nome con Monti per l'Italia potrebbe essere questo? Ma il nome potrebbe essere questo, certo. Ho visto che un esperto di meccanismi elettorali come il mio ex collega e amico Peppino Calderisi ha sollevato delle riserve rispetto alla possibilità di mettere in più liste il nome di Monti, perché c'è il problema che sarebbero liste simili, invece la legge vuole che siano liste chiaramente diverse l'una dall'altra, quindi questo problema c'è, il problema lì da risolvere, insomma. E quindi potrebbe però diventerebbe ancora più confusa l'operazione, mi scusi, perché se non c'è il riferimento di Monti, sono tutte liste diverse alla Camera, ma non c'è una possibilità di confluire, però di confluire in un unico schieramento. Ma non sarebbe stato più semplice fare, come diceva qualcuno, la lista unica anche alla Camera? Sì, sarebbe stato possibile, però c'è stato un problema dei partiti. Può darsi che se ci sono difficoltà la cosa torni a riproporsi, però ci sono stati problemi nei partiti che hanno voluto uscire con il loro simbolo. Si dice che lo scudo crociato dell'UDC porti anche dei voti. Poi lei cosa ne pensa? Ma io penso che ci sia soprattutto un problema di visibilità. Però vede, c'è anche, se capisco bene, una scelta di Monti che vorrebbe lasciare i partiti, non dico insomma in un recinto, volevano essere ripartiti in una in un contesto dove ci sono loro, ecco, dove ci sono loro con le loro responsabilità, sì, e con le loro storie. Probabilmente non vorrebbe avere una lista dove entrano i leader di partito. Infatti, però, la Camera dice che vuol fare solo una lista civica con persone che vengono dalla società civile. Non c'è anche un po', adesso poi vedremo quali sono le liste, le adesioni, di delusione per chi sostiene questa operazione, nel fatto che, insomma, tutti i ministri che hanno fatto parte di questo governo si sono sfilati. Lasciamo perdere Passera, che sembrava in pole position e poi si è fatto da parte per queste questioni proprio della lista unica che è mancata, ma anche tutti gli altri si erano fatti vari nomi. Come mai, secondo lei, non partecipa nessuno di questi ministri? Ma guardi, secondo me ci sono storie diverse. Per esempio, Anna Maria Cancellieri ha dato una prova, credo, di correttezza istituzionale, perché è successo in passato, però un ministro di un governo tecnico dell'interno che ha la regia delle elezioni, insomma, dà anche una prova di serietà se non si candida. Va bene, questo diciamo, i ministri dell'interno sono sempre candidati. E per quanto riguarda lei, però si erano fatti vari nomi, si era parlato Severino, individuale. La Severino Clini probabilmente ha ritenuto poi più opportuno continuare a fare la professione. La cosa strana può essere Riccardi, può essere Moavero, ma mi pare che lui il discorso non l'abbia chiuso, e Passera, che ha avuto una, così, insomma, una lavata di scudi rispetto a un'impostazione che alla Camera lui non condivideva. Intanto una notizia, la RAI ha deciso di stoppare la presenza di Monti alla trasmissione del 6 gennaio, prevista domenica prossima, cioè tra tre giorni, all'arena di Massimo Giletti. Monti era stato invitato, non ci andrà perché su indicazione della RAI. Oggi la commissione di vigilanza, Zavoli, ha anche detto che Monti ha esagerato con le presenze in TV, anche se poi dopo ha detto non mi ero riferito a Monti. Vabbè, insomma, un po' di confusione, però via libera della commissione di vigilanza RAI al regolamento sulla par condicio. E poi è arrivato questo stop a Monti in Rai. Cazzola, una domanda che le volevo fare è questa: il Vaticano, che sostiene l'operazione Monti, la comunità di Sant'Egidio, Olivero, ex presidente dell'ACLI, questa presenza, quanto conta la presenza della Chiesa nell'agenda Monti? Ma credo che conti parecchio, anche perché dietro a Monti c'è il Partito Popolare Europeo. Ho l'impressione però che la Chiesa si sia resa conto che non può dire a Monti quello che non ha detto neanche a De Gasperi, e ho l'impressione che ci sia, non dico un distacco, ma un atteggiamento di maggiore cautela. Cioè? Mi pare che rispetto ai primi tempi, no, dove sostanzialmente c'erano delle dichiarazioni quotidiane degli esponenti della Chiesa, oggi mi pare che abbia un atteggiamento più defilato, più prudente, no? Nel senso che non è che abbiamo una dichiarazione al giorno di Bagnasco o di Bertone che dice bene, bene, bene, bravo Monti. Poi CGIL è divisa, perché come si vede ci sono una parte di esponenti di CGIL in politica che stanno col PDL, altri che invece stanno con Monti. Sì. Ma sulla questione dell'IMU alla Chiesa, adesso la Chiesa con le regole introdotte al governo Monti paga di più o di meno di prima? Lei questo ce lo può dire? No, la Chiesa sicuramente paga di più, perché paga su quelli che sono gli edifici di carattere commerciale, mentre prima diciamo l'essere Chiesa faceva agio anche sugli edifici di carattere commerciale. Adesso non è una misura recente, ma da quando si è posto il problema fino, mi pare, alla legge di stabilità dell'anno scorso, quando Monti fece quel gesto di andare addirittura in commissione. Presidente del Consiglio che va in commissione e trovò la mediazione per l'IMU della Chiesa, cioè sostanzialmente ci discute qual è il carattere degli immobili commerciali, però prima anche gli immobili commerciali erano sostanzialmente annoverati come immobili di culto, e oggi paga di più, certo, non paga quello che vorrebbe che pagassero, i radicali o altre forze politiche, insomma, che vorrebbe. Soprattutto forse c'è una definizione molto ampia degli immobili di carattere commerciale. Però è anche segnato questo la fine del contenzioso, credo, con l'Europa su questa questione, perché sì, c'è stato un accordo. Infatti c'è stato l'accordo e la cosa. cosa è andata bene così, insomma, ecco, quindi... Un'ultimissima cosa le volevo chiedere sulla lista Rotary, come ha detto Fassina. Monti ha già risposto, dice: come fa Fassina a conoscere le liste, non sono ancora pronte? Forse vuol far intendere che non ci saranno solo imprenditori. Per ora la società civile di cui ha parlato Monti, quello che si è visto era forse più imprenditori che non società civile in senso lato, o no? Ma guardi, se vuole la mia opinione, io sono convinto che i poteri forti... Che poi parlo io, voglio dire, dalla radio di Confindustria, non è che abbiamo qualcosa contro gli imprenditori, però la critica è che sia una lista solo di un certo tipo da questo punto di vista, che non ci siano altre professioni, impiegati, operai o quant'altro. Basta, è un po' un mistero questa lista, non si sa cosa c'è. Io so quello che c'è sui giornali, però io ho l'impressione, se vuole gli dica la mia opinione, che i poteri forti sono molto preoccupati o delusi di questa uscita di Monti, perché secondo me i poteri forti stanno col PD. Per esempio chi? Beh, secondo me stanno col PD, comunque avevano messo in conto il PD, che la vittoria del PD, secondo me, se mi consente di dirlo, anche il suo editore, tutto sommato, guardi l'atteggiamento del Sole, no del Sole, il Sole non è un giornale abbastanza obiettivo, guardi l'atteggiamento del Corriere della Sera e di Repubblica. Sì. Scalfari ha fatto un articolo dove ha sostenuto che il programma di Monti è uguale a quello del PD, quindi tanto vale votare per il PD. Vabbè, ma che Scalfari sostenga Bersani, questo mi sembra anche scontato, insomma, da un certo punto di vista. Il Corriere, in effetti, forse si è distaccato un po', ha sostenuto il governo, ma non adesso la ricandidatura di Monti. Cioè, poi non è che c'è una linea univoca, però questo sembra... quindi secondo lei, insomma, la critica che fa Fassina a Monti torna indietro? Rischia di tornare indietro, sì. Va bene, fermiamoci qua, grazie, buona serata, Giuliano Cazzola. 800 24 00 24, intanto titoli del TG3. Monti contro Bersani, taglia le ali, silenzia gli estremisti che bloccano le riforme. Poi a Brunetta, la sua statura accademica è al servizio del settarismo. Bersani, chiedo rispetto, non ho nulla da dimostrare e non chiudo la bocca a nessuno. Pranzo con Renzi avrà un ruolo attivo in campagna elettorale. Berlusconi alla Lega, facciamo l'accordo e se serve sono pronto anche a fare il ministro. Al professore dice parla così perché ha lo stipendio sicuro. Borse piatte dopo l'avvertimento agli Stati Uniti del Fondo Monetario Internazionale, l'accordo sul fiscal cliff non basta, lo spread scende ancora, Fiat vendite record oltreoceano. Addio ai moduli di carta, dal 21 gennaio l'iscrizione ai nuovi cicli scolastici sarà online, ma c'è il timore di un nuovo blackout informatico. La procura di Palermo indaga su un dossier anonimo in cui si informano i magistrati di essere spiati e intercettati, e nelle carte anche nuovi nomi di politici. E cori razzisti durante l'amichevole Pro Patria Milan. Boateng scaglia il pallone in tribuna e il Milan abbandona il campo. Allegri, basta gesti incivili. Salirò, salirò fra le rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. 800 24 00 24, ci chiama Edoardo dalla provincia di Alessandria. Buonasera Edoardo. Buonasera dall'apparato. Eccoci qua, lei è in collegamento diretto con l'apparato o è lei l'apparato? Facciamo tutti parte dell'apparato, chi più chi meno. Secondo me. Sì. Forse voleva dire sistema quel signore, forse voleva dire sistema. Apparato, sistema. Mi dicono che tutti. C'è anche una pagina Facebook dell'apparato. Sì? Sì, non so cosa faccia, c'è un po' di ironia naturalmente anche su questo tipo di cose. Però, un po' di ironia bisogna farla. Niente, io chiamavo in riferimento a due cose, sono veloce. Una che sono un elettore indeciso, ero un elettore indeciso. Poi si è deciso. Poi si è deciso, se era indeciso adesso... Sì, ho deciso in questi giorni proprio grazie a certi interventi del teatrino messo in piedi. Secondo me siamo di fronte all'ennesima presa in giro, semplicemente un riciclaggio della vecchia classe politica. Ce ne ritroveremo tutti a febbraio, proprio senza scandire i cognomi, ma... Sono un italiano che dopo il voto espatrierà e trovo stucchevole, quello che mi ha fatto dire è questo, trovo stucchevole adesso i partiti tutti che ci hanno portato in questa situazione con molta complicità da parte nostra, perché io ritengo che questo sia un paese fallito non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista culturale. E ritengo, nel mio piccolo, che siamo di fronte di nuovo a un teatrino per riciclare, come le dicevo. Ma il teatrino cos'è, Monti? Cioè l'operazione Monti, che sembra nuova ma sì, è vecchia? Secondo me sono come i ladri di Pisa. Come ha detto Bondi. Bravo, esatto. I ladri di Pisa che di esatto. giorno cioè, litigavano tra di loro e la notte andavano a rubare. Veniamo, io sono un ex elettore PD, non mi vergogno a dirlo. Sì. Non lo sarò più. Ah, perché si deve vergognare? Veniamo da... Sì. 20 anni praticamente senza opposizione, poi di giorno facevano finta di bisticciare, di notte poi... Sì. Lei è venuto così a darci un'ondata di ottimismo, insomma, sì, no, giusto per tirarci un po' su. No, vabbè, sto scherzando. Va bene, volevo aggiungere qualcosa, Edoardo? No, no, volevo aggiungere che il PD, sì, sentivo lì Scazzola, no Scazzola, scusi. Giuliano Cazzola. Del ex PDL attualmente. No, PDL prima. A Scalfarotto, aveva, Scalfarotto. Si inalberava come difensore della democrazia, sì, e attaccava il Movimento 5 Stelle per le due espulsioni. Sì, per la questione delle espulsioni. Più di due, direi. Piegati, sì, delle loro 680 per ultimi sindaci PD della Val di Susa, perché non erano d'accordo con le linee del partito, sono stati espulsi. 680 negli ultimi 5 anni. Quindi questo mi fa pensare, prima di... Questa era una bella domanda, adesso vedi, se la prossima volta che becchiamo Scalfarotto gliela facciamo. Capisce che quando si ergono tutti questi difensori della verità e della democrazia, insomma, guardiamo prima in casa nostra, no? Va bene, grazie Edoardo, buona serata. Buonasera. Vincenzo da Caserta, non è quello l'ascoltatore di... No, non so più se è quello che abbiamo perso, poi recuperato. No, Vincenzo, no, niente, buonasera. Ciao, sono Enzo. Eccoci qua, Enzo. Senti, ascolta, io volevo fare due considerazioni. Una su una previsione sull'esito delle elezioni. Berlusconi è disperato, a mio avviso è disperato, cerca di fare accordi a destra, a sinistra, manca su giù, eccetera. Per cui l'unica cosa che gli interessa è salvare la propria posizione per i propri interessi. Uno. La posizione di Grillo che lascia, a me lascia molto essere fatto, visto i risultati che ha avuto nelle varie comunali che sono state, però vedi Parma, il sindaco di Parma è ancora lì in surplus e praticamente non si sa ancora cosa vuol fare sull'inceneritore, cosa si vuol fare sulle altre questioni aperte a Parma. Altra questione, la questione del PDL che ha dato autorizzazione per quanto riguarda le centrali con la legge 55, la cosiddetta legge Marzano, per diverse autorizzazioni, che sono state diverse via, diciamo, le valutazioni ambientali con la commissione curata dalla allora ministro Prestigiacomo. E bene, a fronte di queste autorizzazioni che hanno scavalcato di sana pianta, passando a 3 chilometri già sulla testa, le comunità locali, sì, bene, io mi trovo in una realtà dove ci troveremo praticamente di fianco a una centrale. Io abito a Presenzano, un piccolo paesino, dove abbiamo già una centrale idroelettrica dell'Enel, va bene? Sto facendo fatica a seguirla, credo con me anche gli ascoltatori, sì, vada no, un po' a sintesi, perché... No, volevo dire che questo è un punto molto importante. Ma lo dica. Che molto probabilmente ci riferiremo a una centrale termoelettrica della Edison, non so se ha qualche attinenza con l'apparato. Con l'apparato, va bene. Siamo al delirio di Vincenzo, vada, dica quello che vuole dire. Io non, niente, sì, che la mia era una voce di protesta contro questa cosa, perché noi abbiamo fatto un'audizione alla Camera il 17 dicembre con il senatore Scarpa, che è presidente della quinta commissione di cultura, nella quale nessuno sapeva nulla di questa situazione. A me mi è sembrato veramente di cadere dalle nuvole. Però, ma sarà una cosa da porre alla regione Campania, forse? Certamente. E allora la regione Campania, di concerto con il governo, ha dato i pareri prescritti dalla legge 55 favorevoli. Però guardi, qui ci perdiamo in pareri favorevoli, non ci si capisce molto, secondo me. Molto di più in questa vicenda. Grazie comunque Vincenzo, quello che il tempo a disposizione ce l'ha avuto. 800 24 00 24. Andiamo a Macerata, vogliamo andare lì. Francesco, buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Eccoci qua. Ci sentite? Io ho sentito prima che non bisognava essere pessimisti, ma io sono molto deluso di questa situazione, sono molto pensieroso e che non andrò nemmeno a votare, perché questa massa di delinquenti che ci hanno amministrato, che ci amministrano, sono tutti un disastro, insomma. Quindi per cui ci lamentiamo tutti, arraffiamo tutti. Vabbè, anche lei è l'ondata di ottimismo, tutti così stasera. Grazie Francesco, voleva darci un messaggio di speranza per il futuro, oppure così restiamo su questo suo sfogo che non andrà a votare? Sì, le volevo dire, io ho 75 anni. Vabbè, sto pagando i contributi, ho 52 anni di contributi e non mi lamento, voglio dire, mi faccio il mio lavoro, sta pagando tutto. Ancora i contributi per la pensione, sì, a quest'età? Sì. Sì, io sto pagando i contributi. Ma lei che lavoro faceva? Io faccio il rappresentante. Che lavoro fa allora il rappresentante? Io faccio il rappresentante ancora per tenere il posto a mio figlio, che mi è venuto un figlio tardi, quindi sto aspettando che finisca lui e la scuola e poi venga a fare il mio lavoro, insomma. Va bene, auguri Francesco, che dire a lei e a suo figlio per il futuro. Andiamo a Gian Pietro che ci chiama da Bologna, buonasera. Buonasera, volevo intervenire sull'aspetto, volevo precisare, così lo premetto per chiarire, io sono delegato della FIOM a Bologna, di un'azienda grossa di 300 passa dipendenti e diciamo che l'aspetto, quando facevo i commenti Monti in questi giorni sull'aspetto chi è progressista e chi è conservatore, direi che l'aspetto di Monti è assolutamente invece reazionario. Perché diciamo che tutti questi anni, da questa crisi economica mondiale, sulla logica dei debiti, gli stati hanno coperto i debiti privati delle banche, del sistema finanziario mondiale, con più di 40 mila miliardi di dollari. Con questi soldi si coprivano ampiamente molti debiti degli stati, che si sono trovati a collarsi ulteriori debiti che, con la speculazione finanziaria, con gli spread, così stanno pagando interessi a queste banche che magari sono stati salvati con i soldi pubblici. Quindi Monti rappresenta tutto questo, rappresenta, come si dice, il fatto di far pagare ai popoli i debiti privati dei capitalisti che vogliono continuare a fare i profitti. Tanto faccio un esempio molto, e lascio la linea ad altri. L'Ilva di Taranto, sì, pronto? Sì, sì, la stiamo ascoltando. Grazie, perché non sentivo prima. L'Ilva di Taranto è un esempio classico, è proprio molto, molto chiarificatore. Quando abbiamo i Riva, che sono i resti domiciliari, praticamente accusati di strage, perché questo si tratta, di una strage perpetrata negli anni, corrompendo a livello quasi da cupola mafiosa, giornalisti, istituzioni, politici locali e nazionali. Quindi che c'entra Monti però con questo? Spiego, col decreto di impatto ambientale che è stato poi fatto da questo governo, praticamente si dice che se non seguono qualcosa che, come è stato scritto, non andava bene all'Ilva di Genova, perché con l'impatto che creava sulla città, con gli stessi valori va bene all'Ilva di Taranto, come se l'impatto verso la salute dei cittadini di Genova fosse diverso da quelli di Taranto. E su questo, se non segue questo percorso, i Riva devono pagare una penalità del 10% sui profitti. In realtà la soluzione sarebbe che i Riva dovrebbero essere espropriati di tutti i loro capitali, andare 20 anni in galera, se non di più. Vabbè, lei ha fatto tutta questa premessa. Fantastico, Gian Pietro. Lei ha fatto tutta questa premessa per poi dire che concludere così. In maniera un po' brutale, va bene, e questa è la sua opinione, del resto, che va benissimo. 800 24 0024, siamo qua anche per questo. Adesso la prossima ospite è qua con noi, Giuliana De Medici. Buonasera. Buonasera. Candidata a voi, per la destra, in particolare. Grazie, di Francesco Storace, alle elezioni della regione Lazio. A dispetto del cognome, Giuliana De Medici è la figlia di Assunta e Giorgio Almirante, storico leader della destra italiana. Prima di tutto ci dica, è confermata questa candidatura? Lei sarà capolista? No, non sono capolista io, sono al numero 2. Capolista sarà Buonasorte, Roberto Buonasorte, che è il consigliere uscente. Ok, lei quindi sarà numero 2. Ma sì. L'altro giorno Berlusconi ha detto che, insomma, appoggia la candidatura di Storace. Ma sì, siamo sicuri che sarà l'unico candidato presidente per l'area di centrodestra, o ci sarà, secondo lei, qualche altro candidato? Ma io questo non lo so, non glielo so dire con precisione quali saranno, se ci saranno altri candidati oppure no. Lei cosa pensa? Io spero che l'unico candidato indubbiamente sia lui, e che questa destra si ricompatti tutta quanta. Questa può essere una buona occasione. Senta, signora De Medici, ci aveva già provato Alemanno a coinvolgerla in politica, la voleva far entrare nella giunta. No, è stato sempre Francesco Storace che... Sì. Stava Alemanno, gli aveva chiesto di entrare in giunta e di fare un nome di una donna, perché c'era a quei tempi il problema delle quote rosa, non so se ricordate. Certo, come e no, doveva trovare un assessore donna. E mi chiese se ero disponibile a entrare in giunta, appunto, in rappresentanza della destra, e in quell'occasione risposi di sì. Poi, insomma, non se ne fece più nulla e quindi... Perché lei fa gola, insomma, alla destra romana, perché la figlia di Giorgio Almirante, lei tra l'altro, appunto, spieghiamo anche questa questione del cognome, perché è stata sua madre qualche anno fa a rivelarlo. Sì, guardi, io non credo che questo interessi però onestamente l'opinione pubblica, sono questioni private, familiari. Sì, che sul fatto se lei non ne vuole parlare è diverso, però se lei mi dice che non è, che secondo lei non è interessante, io dico che invece secondo me sì. Che l'opinione pubblica sia interessata, sì, ai fatti privati, diciamo, di una famiglia. Quello che io posso dire con assoluta serenità, sì, è che in ogni caso io credo che un genitore si possa definire quella persona che ha cresciuto una, sì, persona, indipendentemente poi del fatto, allora, lo dico, dei nomi, sì, o cognomi che si portano. Lo dico io in due parole: lei è figlia di Giorgio e Assunta Almirante, la signora Assunta non si era ancora separata, a quell'epoca non c'era il divorzio, e quindi lei è stata riconosciuta col cognome del precedente marito, il Marchese De Medici. Detto questo, però, non detto è che possiamo... Questo, quello che io volevo dire è che secondo me la non cosa è che possiamo evadere la questione che lei è figlia di Almirante, perché chi ti cresce in una famiglia, mi permetta di finire il mio discorso, chi ti cresce, chi ti ha portato avanti, chi ti ha seguito da ragazzina, ti ha dato degli insegnamenti, ti ha aiutato nei momenti di difficoltà, ti è stato vicino, eccetera. E quindi secondo me questa è la lettura che bisogna dare di tutta questa, certo, ma è il motivo vicenda, per cui... E in questo io lo sento sicuramente come una persona che mi è stata vicina e che mi ha tirato su. Certo, ma è poi il motivo per cui le chiedono di candidarsi, oltre alle sue qualità anche personali, sicuramente, però sì, che sono, diciamo, meno note a chi meno non la conosce, pubblico, ecco, mettiamola così, perché invece... è un'occasione per me per poter dimostrare, insomma, le mie qualità, appunto, la mia correttezza, la mia voglia di lavorare per il bene comune, insomma. Sì, senta, ma cosa resta invece, perché questo è il filo che ci unisce in questo momento, dell'eredità oggi di Giorgio Almirante, secondo lei, politicamente parlando? Secondo me quello che rimane, certamente i tempi sono cambiati, le cose sono diverse, diverso il modo di fare politica, proprio in tutti i sensi, dalla comunicazione al modo proprio di delle leggi elettorali, insomma, quindi è sconvolto completamente il panorama politico rispetto a quegli anni. Quello che resta, secondo me, sono i principi basilari, cioè la correttezza, la coerenza, l'onestà morale e intellettuale e la voglia di fare qualche cosa per il bene comune, appunto, non per interessi personali. Questi sono i principi cardine che ci dovrebbero guidare, insomma, e che io porto nel cuore, ma penso tanti altri, perché Giorgio Almirante comunque è rimasto nel ricordo di tutti. tutti, questo indipendentemente dall'opinione che si può condividere o meno. Comunque è un leader politico che comunque è ricordato e apprezzato e stimato anche dai suoi da quelli che erano i suoi avversari politici e che non condividevano. Ricordiamo la famosa partecipazione al funerale di Berlinguer, per esempio, no? Assolutamente. Quello sì, è un gesto sicuramente che poi è entrato nel cuore, però siccome la partecipazione di tutti i politici del tempo al funerale di Almirante. Certo. Vennero tutti, nessuno escluso. Però siccome sappiamo, signora De Medici, sappiamo che le eredità sono a volte anche ingombranti. Per esempio oggi mi viene a dire c'è stata questa questione dei fischi razzisti nei confronti dei giocatori del Milan. Suo padre, che molti anni fa aveva però firmato il famoso manifesto della razza, fa parte anche di questa destra post-fascista, insomma. E assolutamente questo è una di quelle cose di cui potevano essere degli scritti che lui ha fatto in gioventù, era giovanissimo ed erano, bisogna anche contestualizzarli nel momento in cui sono stati fatti, bisogna rendersi conto che non era in quel momento un giornalista ma un segretario di redazione, quindi insomma tutta una situazione particolare. Comunque da quando lui è entrato in politica nel 1946 ed è entrato in Parlamento, è stato uno dei deputati più anziani, perché fin dalla prima legislatura lui è stato eletto, assolutamente lui ha abbracciato in modo inequivocabile, se questo lo possiamo vedere in migliaia di discorsi, poi lui è stato molto loquace, quindi resti un attimo con noi se ha ancora tempo, Giuliana De Medici, perché dobbiamo fare una pausa adesso e poi continuiamo l'intervista con la candidata della destra di Storace alle elezioni regionali del Lazio, Giuliana De Medici, a tra un attimo. Eccoci qua di nuovo in compagnia di Giuliana De Medici. Stavamo parlando della questione, per esempio, degli immigrati, no? Perché appena Storace ha annunciato la possibile candidatura di Fidel Mbanga Bauna, giornalista di colore, che fra l'altro non so poi se ha accettato la candidatura, se ci sarà anche lui in lista o no, sulla pagina Facebook di Storace sono arrivati gli insulti razzisti, quindi non è una cosa che ci siamo molto lasciati alle spalle. Lei come giudica queste prese di posizione? Semplicemente ignobili. Fidel è un professionista che sono tantissimi anni che lavora in Rai, al TG3, è un ottimo professionista, quindi io credo che le persone debbano essere giudicate sul loro modo di essere e sul loro modo di fare, insomma, quindi non ci sono altre parole che quelle che gli ho già detto, sono ignobili e sono non sono neanche degne di essere prese in considerazione, secondo me. La cosa migliore è non neanche. E però come mai tutte le volte rivengono fuori in occasioni come queste, legate a una certa destra, però mi consenta di dirlo, perché altrove non è la nostra vede. Destra quella, però è un colore della pelle, di essere, non per quello che fa, per un suo comportamento, secondo me è una persona che insomma non vale niente la persona che giudica, insomma, questo secondo me c'è poco da discutere su questo, è impensabile. Cioè il colore della pelle non c'entra nulla, non conta pelle nulla. Di una persona, cioè se sei una persona in gamba, se sei una persona che fa il tuo lavoro onestamente e correttamente, questo è quello che ci interessa. Però, poi se bianca, nera, gialla, verde o blu, non è un problema, insomma. Ora, detto che non è una cosa di competenza strettamente regionale quello dell'immigrazione, però poi invece da un certo punto di vista per politiche, per esempio, di integrazione, per l'occupazione, eccetera. Sì. Si può decidere, per esempio, di dare delle sovvenzioni a progetti per integrare gli immigrati, eccetera. Questo secondo lei sarebbe possibile nel caso in cui lei fosse eletta? Perché per esempio Berlusconi ha ripreso ad attaccare il Partito Democratico dicendo che vuole aprire le frontiere a tutti gli immigrati. Guardi, io ritengo che queste persone che vengono da noi a lavorare e che spesso e volentieri sono diventate indispensabili, perché nelle nostre famiglie, con gli anziani, con i bambini, spesso e volentieri, direi quasi sempre, si trovano queste persone immigrati, extracomunitari, eccetera. Queste persone debbano essere rispettate così come siamo rispettati noi italiani. Ora, il punto è che dare rispetto a una persona non vuol dire soltanto aprire la porta, farla entrare e poi farla costringere a dormire alla stazione Termini perché non c'è possibilità di dargli un posto sicuro, un no. Allora, io quello che dico, bisogna portare rispetto a queste persone. Portare rispetto vuol dire che devi venire in Italia e devi vivere in modo adeguato come un italiano, però facendo il tuo lavoro. Quindi mi sembra giusto che vengano in Italia coloro i quali hanno un lavoro e possano usufruire di tutte quelle che sono poi le assistenze che fin qua. E se uno perde il lavoro, se un immigrato perde il lavoro, cosa dovrebbe fare secondo lei? Ma se un immigrato perde il lavoro bisogna dargli un tempo ragionevole per vedere se ne ritrova un altro, altrimenti le sembra più giusto tenerlo a dormire sui cartoni alla stazione Termini piuttosto che rimandarlo al suo paese? No, non lo so, l'alternativa potrebbe essere fare delle politiche, spendere dei soldi per ospitare le persone che hanno bisogno, politiche di integrazione lo fa la Chiesa, a volte è costretta a farlo anche con le assistenti sociali, il Comune, per esempio, o la Regione, non lo so. Sì, per carità, si può vedere in tempi ragionevoli, ma così come si aiuta un italiano che ha necessità, insomma, non è senza soltanto a senso unico nei confronti degli immigrati, no? Bisogna vedere le cose sempre a 360 gradi, secondo me, e quindi bisogna aiutare tutti. Senta, la prima cosa che lei vorrebbe fare, il primo progetto di legge arrivata in Regione? Questa è una bella domanda, difficile pensare. Guardi, istintivamente, visto che io ho lavorato in ambito sanitario e quindi è una cosa di competenza regionale, fra l'altro, la sanità, io direi che bisognerebbe mettere mano alla sanità e cercare di riorganizzarla, però, nel vero senso della parola, dal tutto quanto a 360 gradi. Ma riorganizzarla fare dei tagli come? Così incondizionati non serve al cittadino, perché si ritrova comunque dei servizi che sono monchi e che non sono più buoni. E contemporaneamente c'è uno spreco incredibile di risorse, quindi bisogna tagliare, cominciare da capo e riorganizzarla da zero proprio. Ma cos'è la cosa che funziona di meno secondo lei nella sanità oggi in Lazio? Tra l'altro nel Lazio, dove ha governato pure Storace, ricordiamolo, dal 2000 al 2005. Assolutamente sì, anche lui è lì, ma ci stiamo trascinando una situazione da anni ormai in ambito sanitario. Ma cos'è che non funziona secondo lei? Non funziona perché non è organizzata, cioè si fanno dei tagli incondizionati, non so, tagliamo i posti letto senza vedere quali sono le necessità vere del cittadino che si ritrova a non avere più un ricovero in ospedale o ad avere delle dimissioni in tempi brevissimi quando ancora magari c'è necessità di rimanere, senza però, non lo so, per esempio vedere di far funzionare questi ospedali più tempo, perché gli ambulatori degli ospedali il pomeriggio non funzionano. E allora perché non farli funzionare e quindi riorganizzare tutto quanto in modo da offrire ai cittadini un servizio migliore e ai medici anche permettere di lavorare, perché in questo momento anche i medici stanno con questi tagli incondizionati stanno subendo uno stress lavorativo terribile, nel senso che fanno turni doppi rispetto a una volta, insomma c'è una situazione di criticità enorme, quindi questa forse è la prima cosa da fare secondo lei. Mano, senta, invece tornando complessa, a... sì. Per carità di Dio, estremamente complessa, ma a cui metter mano. Ma come ha governato Storace tra il 2000 e il 2005 secondo lei? Bene o c'è da fare anche qualche autocritica, qualcosa che può essere stato sbagliato? Ma sicuramente qualche autocritica, tutti noi dobbiamo farla, se siamo delle persone sagge e con la testa sulle spalle, tutti noi dobbiamo fare autocritica su quello che facciamo. Per esempio nella sanità, sicuramente, non so. Poi comunque ha lavorato meglio di quello che è stato poi rappresentato, insomma, anche perché è stato scagionato completamente da qualsiasi cosa che gli era stata... qualsiasi infangata, insomma. Ma ricordiamoci cosa? Che il Sant'Andrea l'ha aperto, per esempio. Sì. No, mi scusi, però è stato scagionato. Che è costato sì. L'ira di Dio e che è rimasto chiuso anni, anni e anni, addirittura rovinando le strutture che c'erano dentro, i macchinari, eccetera, rimanendo inutilizzati. Lui quantomeno ha avuto il coraggio ed è riuscito a offrire ai cittadini una struttura che adesso è una delle migliori. Quindi oggi lei mi dice praticamente Storace si candida per continuare a fare quello che ha fatto tra il 2000 e il 2005 sostanzialmente, senza... dire che continuare c'era altre cose nuove da fare, insomma. Riprendere, visto che c'è stata una pausa. Insomma, le situazioni cambiano, si evolvono, insomma, no? Sono passati 7 anni da quando lui è andato via dalla regione, quindi troverà sicuramente situazioni diverse. Io penso che Storace sia l'uomo però che sa il fatto suo e quindi sicuramente riuscirà a fare un buon lavoro. No, perché lei ha detto è stato scagionato da tutto il fango Storace, sulla questione del Lazio Gate sicuramente... in appello è stato scagionato. La questione invece dei bilanci della sanità, anche laziale, che è ancora aperto, nel senso che è uno dei capitoli dolenti, no? Non solo nel Lazio, a dire la verità, però lì sicuramente sì. Questi 5 anni di governo, in questo senso le chiedevo se c'era da fare un po' di autocritica o no. Questo, guardi, io non ne lo so dire, lo dobbiamo chiedere a lui, non posso io pensare all'autocritica che fa Storace. No, l'unica però lei si candida per lui, quindi comunque insomma. Sono cose che si stanno, quelle del bilancio sono cose che si trascinano da anni, no? È come adesso dare la colpa a Berlusconi della situazione in cui ci troviamo, bisogna essere obiettivi e onesti e dire che questa è una situazione che si è trascinata da anni, da diversi governi, non è il governo Berlusconi che ha mandato l'Italia alla malora, insomma, no? Bisogna rendersi conto che queste sono situazioni che... Vabbè, Berlusconi ha governato per molti anni, quindi non è neanche che sia esente da responsabilità, così non come Storace non è esente da responsabilità nel Lazio, scusi, 5 anni di governo. Esclusivamente colpa sua, nel senso no, che ma infatti non ne stavo dicendo che sia colpa sua, io le ho fatto un'altra domanda, le ho chiesto se su questo c'era da fare un'autocritica, cioè sulla questione del bilancio della sanità riferita ai 5 anni, a quei 5 anni. Poi ci saranno altre responsabilità di altri governi, Badaloni, Marrazzo, cioè, riferito a Storace, questa è la domanda che le ripongo. Secondo lei è stato fatto qualcosa che non va rifatto? Delle cose o no? Positive, come le dicevo, avrà commesso qualche errore, per carità. Allora. Adesso io nello stretto, insomma, non le so rispondere onestamente, però ripeto, nel giudizio generale che possiamo dare di Francesco Storace, secondo me è una persona che ha lavorato meglio di altri poi alla fine, insomma, no, a oggi a distanza di 5-7 anni possiamo dire che ha fatto delle cose positive, poi gli errori li commettiamo tutti, no? Le posso chiedere questo mi sembra chiaro, le posso chiedere cosa ne pensa di Gianfranco Fini? Visto che insomma è al suo esordio in politica, si fanno tante domande, il delfino di Giorgio Almirante, di suo padre, poi con tante altre vicende dopo, insomma, che l'hanno portato da un'altra parte. Guardi, però... preferisco proprio non parlarne. Cioè, la risposta è no comment? Ignora la presenza di Fini? Ignoro la presenza di Fini e preferisco non dare nessun commento in merito, insomma. Ma perché, preferisce non dare commenti perché, lo dico brutalmente, perché è un argomento che non le piace o perché non sa cosa dire? No, non le piace. Né l'una né l'altra, nel senso che non saprei cosa dire assolutamente. Non è che non mi piace perché non ho, è che secondo me determinate persone che si comportano in una certa maniera è meglio ignorarle piuttosto che dare dei commenti positivi o negativi. Comunque i suoi non sarebbero positivi, mi sembra di intuire. No, o sbaglio? Forse di larga sentenza. O anche a chi ci sta ascoltando. A chi ci sta ascoltando, sì. No, sa, perché comunque, ripeto, lei si sta candidando, certamente la gente è interessata anche a sapere, no? Fate parte della stessa famiglia, io penso che politicamente forse parlando. È stata appunto a, come lei mi ha fatto gentilmente queste domande su quello che bisogna fare. E, ecco, io sono una donna che ha sempre lavorato, che è sempre stata corretta nella sua vita professionale nei confronti degli altri. Invece Fini è stato scorretto, secondo lei? Io sto parlando di me, non di Fini. No, però siccome mi sta rispondendo alla domanda su Fini, sì. Sono orgogliosa della mia famiglia, credo di aver cresciuto due figli che sono... La pensa come Storace su Fini, via. E quindi io penso che la gente sia più interessata a questo, a sapere, beh, forse è una persona che ha avuto una vita appunto apprezzabile potrà far qualche cosa di buono per tutti quanti noi, e quindi spero che gli italiani, insomma i laziali soprattutto, mi diano fiducia. Grazie, buona serata, auguri, buon anno, e auguri anche per, buon anno a tutti quanti, per questa avventura elettorale. 800 24 00 24, tra un attimo adesso facciamo la pausa. Titoli del TG1. Monti attacca PDL e PD, Bersani sia coraggioso e zittisca i conservatori, pronta la replica a Bersani, premier rispetti PD, pranzo con Renzi. Berlusconi in un'intervista al TG1 dice, PDL partito di massa e di moderati, vicini ad accordo, collega e spiega il suo piano per togliere l'IMU. Cinque ore dai giudici, poi due Marò lasciano l'Italia dicendo, ritorniamo in India rispettando la parola data, fiduciosi nella giustizia. Cori razzisti contro Boateng, il Milan abbandona il campo durante un amichevole con la Pro Patria, Allegri basta gesti incivili. L'omicidio di Melania Rea, Parolisi l'ha uccisa per un rifiuto sessuale, così il giudice ha motivato la condanna all'ergastolo. Sotto attacco i beni confiscati alle mafie, attentati e intimidazioni contro locali e terreni dell'associazione Libera, Don Ciotti, non ci fermeranno. Singolo di anteprima prima per il rapper Fabri Fibra, si chiama Pronti Partenza Via, racconta il nostro tempo, situazione politica compresa, ed è girato nella Reggia di Venaria, anticipazione del nuovo album Guerra e Pace. Salirò, salirò fra le rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Pompa, pompa, pompa. Eccoci qua, allora sentiamo adesso ancora titoli dei telegiornali, poi spieghiamo cosa succederà, una pausa per il traffico, poi ascoltatori in attesa già da un po' all'800 24 00 24, la 7. Nuova offensiva mediatica di Monti, che ne ha soprattutto per quella parte del centro-sinistra che considera conservatore la CGIL, la FIOM, Vendola, Fassina. Spero che Bersani non vinca, dice il Premier, che attacca anche il PDL e l'ex ministro Brunetta. Nel pomeriggio per Monti, vertice di 4 ore per discutere programmi e candidature. Durissime le reazioni, non chiudo la bocca a nessuno, Monti rispetti il PD, dice il leader Bersani, inaccettabile l'interdizione nei miei confronti, dice Vendola, il Premier ha perso la testa, il commento di Brunetta, accusato dal Premier di aver avuto posizioni settarie estreme. Primo faccia a faccia dopo le primarie tra Bersani e Renzi, voglio coinvolgerlo nella campagna elettorale, dice il leader del PD, aiuterò il segretario, aggiunge il sindaco di Firenze, senza dare altri dettagli. Nuova offensiva mediatica di Berlusconi, che non esclude che potrebbe non candidarsi a premier e fare solo il ministro. Allora, il caso Monti, visto che anche stamattina è stato in Rai, e duro intervento del presidente della commissione di vigilanza Zavoli, che parla di sgarro palese e grave, di atteggiamento recidivo inquietante, riferendosi ai direttori delle reti e dei TG che fanno di testa loro invitando chi vogliono. Parlava anche di Monti e Zavoli dice di no, ma intanto sospesa la partecipazione del Premier al programma di Giletti domenica prossima. Finita la licenza per trascorrere in Italia il Natale e le altre feste, tornano in India i due Marò accusati di aver ucciso nel febbraio dell'anno scorso due pescatori durante un'operazione antipirateria. Salvatore Girone e Massimiliano La Torre dovranno essere giudicati nei prossimi giorni dalla giustizia indiana. I due militari sono stati interrogati oggi dai magistrati della Procura di Roma, che hanno aperto un fascicolo sulla vicenda. Un caso gravissimo e clamoroso, l'amichevole di oggi a Busto Arsizio, Pro Patria Milan. Dopo ripetuti cori razzisti all'indirizzo dei giocatori neri del Milan, uno di loro, Boateng, ha reagito scagliando il pallone in tribuna, e poi il capitano della squadra, Ambrosini, ha portato fuori tutti i suoi compagni. Partita sospesa, Allegri, così bisogna fare. Strade in diretta. Buonasera, disagi in Liguria sulla 26 dei trafori, code di 2 chilometri dopo un grave incidente tra un mezzo pesante e una vettura tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravelona Toce. Ripercussioni anche sulla 10 con code a partire da Arenzano per chi viaggia in direzione di Ventimiglia. In città a Roma è chiusa la Complanare per un incidente tra Viale di Tor di Quinto e Largo dell'Arma di Cavalleria in direzione del centro. Per traffico intenso si incontrano code verso Salerno sia sulla 3 Napoli-Salerno che sul raccordo Salerno-Avellino. Trafficata anche la tangenziale di Catania, rallentamenti tra Bicocca e San Giovanni Galermo nelle due direzioni. Infine prudenza sulla 24 Roma-L'Aquila-Teramo, la nebbia riduce la visibilità a 80 metri tra Sergi e San Gabriele Colledara. È tutto, appuntamento tra mezz'ora. La Zanzara. 800-24-00-24, Ottone da Torino, buonasera, benvenuto. Ci sente? Ci sente? Eccolo qua. Abbassi la radio, ci senta solo sul telefono, altrimenti sentiamo il ritorno. Però Ottone io non lo sento. È fantastico. Sento quello che dico io, ma non quello che dovrebbe dire lui. Andiamo a Edmondo che ci chiama da Roma. Buonasera Edmondo. Buonasera. Eccolo qua. Ecco, lei prima ha parlato con quel signore evidentemente acculturato che non sapeva nemmeno spiegare quale fosse l'apparato, o meglio gli apparati, no? Sì. Lo Stato a cui faceva riferimento, mentre se vuole con pochissimo tempo glielo posso spiegare io. Ah, finalmente, intanto sì. Si parla non di apparato ma di apparati, no? Perché è un corpo, è un organismo e quindi apparati. Che ne so, potremmo parlare del T-Tier e di come funziona all'interno delle pubbliche amministrazioni, anche se T-Tier in realtà è una parola un po' americana. Potremmo parlare di come arriva la signora De Medici a presentarsi, quando è evidente dall'intervista che lei le ha fatto che non capisce nulla di quella che è la sanità e della situazione del debito sanitario, in quanto per esempio bastava chiederle se sapesse quante ASL ci sono a Roma, piuttosto del perché alcune, che ne so, perché le ASL hanno un grosso debito sulle SDO, cioè sulle schede di missione ospedaliera di Roma, per esempio, di che cosa e come male ha operato nei controlli di gestione, del perché i centri di... insomma, di quale apparato vuole parlare? Di passera dalla storia, da quando dalla distribuzione delle monete euro era... che ne so, amministratore delegato di Poste a quando è diventato ministro, dai boiardi di Stato, che ne so, parliamo di gamberale d'autostrade fino alla Files Lazio, mi dica lei di che apparato. No, no, è lei parlare. Che mi sta dicendo, mi fa piacere che qualcuno abbia aggiunto qualche parola a questo concetto di apparato. Immagino preciso subito che io non appartengo a questo, sotto. Perché sì. Lei appartiene all'apparato di Viale Astronomia, vogliamo parlare anche di quello di Viale Astronomia? Sono un dipendente di questa radio, sicuramente. Sì, no, certo, tutto quello che ha detto prima non appartiene. Sì. È un dipendente di Poste, come un dipendente dell'EN, un dipendente dell'ENI, come, che ne so, vogliamo parlare dello scandalo Bertoni e di Prodi, che ne so, di che... Ma non lo so, l'ha chiamato lei, di cosa vuole parlare? Non è che è lei che ha chiamato noi, sa. È lei che prende in giro un acculturato, non ci vuole molto, no? Ma se lei... No, guarda, io non prendo in giro nessuno, io sono stato definito membro dell'apparato, ho chiesto, ci dica cos'è questo apparato, e ci siamo stati lì 10 minuti. È chiaramente un dipendente, non può non vedere come se fa... Non può non vedere che il suo T-Tier, sicuramente, cioè, ovvero, traduco, i dirigenti di Viale Astronomia fanno alcune scelte, alcune preferenze, ma lì ne hanno anche ragione, perché è una cosa privata. Ma quando si tratta di ex baracconi statali, dove ovviamente il MEF ha belle azioni dentro, o quando si tratta di ministeri, o quando si tratta di enti inutili che continuano a stare lì, nonostante Berlusconi, nonostante Monti, nonostante tutto quello che si è detto finora. Va bene, lei ha chiarito il concetto di apparato dal suo punto di vista, vorrei aggiungere anche qualcos'altro o no? Sì, no, che voglio dire che le persone come la signora De Medici farebbero bene a continuare a fare bene, se lo fanno bene il loro mestiere, perché mi sembrano totalmente inadatte a coprire un ruolo politico. Lei, come molte altre, ovviamente, che parlano... Come prima cosa vuole fare qualcosa sulla sanità e non sa né quello che ha fatto precedentemente Storace né come sta messo la sanità. Sapeva pochino, questo è vero. Grazie Edmondo, grazie, buona serata. Prego. Andiamo, dove andiamo? A Riccardo da Chieti, buonasera. Buonasera. Eccolo. Volevo fare un intervento relativo ai cori razzisti della partita Propatria. Ho sentito dichiarazioni che ha fatto Allegri al vostro giornale radio delle 7. Premetto che io non sono razzista e quindi condanno anch'io questo tipo di manifestazioni, però sempre la stessa squadra, il Milan, io ho assistito, perché se voglio la faccio sentire perché ce l'ho su da YouTube scaricata, una partita del Milan con il Livorno, a Livorno, dove per parecchi minuti la curva livornese tutta insieme cantava Berlusconi pezzo di merda, Berlusconi pezzo di merda, ripeteva come una cantilena ossessiva. Sì, e questo cosa c'entra con i fischi razzisti? Nessuno si è indignato. Ma dico io, è possibile che ci si indigni tal punto da lasciare la partita perché c'è stato un coro razzista? Però mi scusi, non c'è una differenza, Riccardo, per dire pezzo di merda al capo del governo. Allora però è un po' diverso, perché se io dico, come dice lei, pezzo di merda a Berlusconi, forse esprimo la mia opinione, no? Poi che sia volgare, che sia violento, che i fischi siano da censurare sempre, questo è possibile. Però è diverso da fischiare uno per il colore della pelle, quello è razzismo, e a casa mia è più grave. Questo è quello che diventa dal pezzo di merda, si può dire. Però faccio loro un secondo me sì, secondo me sì. Invece di dire Berlusconi pezzo di merda, si fosse detto oddio, spero di non beccarmi la denuncia per vilipendio, Napolitano pezzo di merda. E diciamo pure questo. L'FBI a casa avevamo, sicuro. Ma questo lo dice lei, non è così, guardi, non è così. E mi dispiace che non capisca la differenza tra libertà d'opinione, per quanto volgare, e razzismo, perché sono due cose diverse, e una è più grave dell'altra, a casa mia. Poi a casa sua forse no, anzi sicuramente no. Per me sono gravi tutte e due, e sono offese alla persona. O razzista o pezzo di merda, è uguale. Però nessuno... No, una è offesa al colore della pelle, l'altra è offesa alla persona, e sono due cose diverse. No, non sono la stessa cosa. Non c'è una persona. Vabbè, ma tanto guardi, Riccardo, non è che io devo convincere lei deve convincere me. Ci siamo detti quello che pensavamo. Amici, come prima, arrivederci, grazie. Va bene? Arrivederci. Grazie. Ottone da Torino, abbiamo di nuovo in linea. Vediamo se stavolta ci sente. Buonasera. Buonasera. Io la chiamo sempre per la questione dell'apparato. Guardi, ho sentito anche il radiospettatore prima che parlava di apparati statali, quelli sono apparatini del PD, apparatini della pubblica amministrazione. Guardi che lei si avventura su una cosa scivolosa, è l'apparatino adesso. No, dunque, lei voleva dare un contenuto anche lei alla parola apparato. Sì, io metto subito le carte in tavola. Io sono giovane funzionario dell'Organizzazione Mondiale del Commercio di Ginevra. Noi siamo parte di questo apparato che è un apparato sovranazionale, non siamo gli unici, guardi, è un apparato che, sono cose pericolose per me quello che sto dicendo, perché è un apparato che suo scopo principale è quello di andare ad erodere la sovranità statale, e lo fa in più modi. Guardi, le faccio l'esempio. Unione Europea, guardi quello che è successo a partire da Maastricht, gli stati non hanno più possibilità di fare politica monetaria. Per una libera scelta per una libera scelta degli stati che hanno aderito a Maastricht, hanno firmato, per una libera scelta gli stati hanno aderito all'Organizzazione Mondiale del Commercio, non gli ha ordinato il dottore di aderire. Poi gli apparati ci saranno pure, però. Guardi, per quanto riguarda l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che tra le altre cose decide se suo figlio mangerà alla mensa della scuola cibo trattato con OGM e così via, impedisce agli stati di fare politiche efficaci sugli investimenti esteri, sussidiare l'industria nazionale. In verità la scelta è stata presa dalla Commissione Europea, che non è eletta da nessuno, o meglio dai governi nazionali, e posso dire che nel 94, sì, quando sono stati ratificati questi accordi al Parlamento italiano, quali accordi? Quelli di Maastricht? Gli accordi di Marrakesh, che hanno istituito l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che sono tomi di 5-6 mila pagine illeggibili. E difatti c'è un'intervista. Vabbè, ma lei ha chiamato dire che l'Organizzazione Mondiale del Commercio è un apparato che agisce per erodere la sovranità degli stati. No, io l'ho chiamata per dire questo, che quando l'anno scorso il signor Silvio Berlusconi, anzi non dall'anno scorso, quando il signor Silvio Berlusconi ha cominciato a agire troppo da vicino con Vladimir Putin, il signor Gheddafi. Noi qui abbiamo pensato, oddio, una scheggia impazzita, una cellula impazzita che rischia di farsi alterare il sistema. Ma noi chi, scusi, lei con chi era? Noi a livello di apparati, Commissione Europea, Organizzazione... Bisogna che la metta in contatto con l'ascoltatore che è fissato sugli apparati, perché lei mi sta confermando che fa parte dell'apparato. Pronto? È un apparato che, guardi, quando Mario Monti mi viene a dire che Vendola è un conservatore, che la Fiume è conservatore, mi fa venire in mente che questo apparato è un apparato che vuole demolire i diritti dei lavoratori, vuole privare i lavoratori dei diritti che hanno conquistato... No, è Monti che vuole fare questo, ma non è che ci deve essere per forza un apparato. Monti ha fatto quelle dichiarazioni. Se fosse un apparato massonico non ci sarebbero neanche delle dichiarazioni, forse sarebbe tutto sotterraneo, come in qualche modo lascia intendere lei. Però mi sembra che questo argomento qua abbia fatto un presa sugli ascoltatori, inevitabilmente. Allora domani, segnatevelo l'apparato, torniamo su questo, tornate, e ognuno con la sua versione. Io per stasera mi fermo qua, Alessio Maurizi, Stefano Catone e Nadia Zammitti in redazione, Paolo Corleone fantastico in regia anche questa sera, c'è anche Pietro Lacorte, un saluto a tutti, buona serata, a domani. La Zanzara.